Senti una cosa, ma vogliamo fare un attimo i nani, perché gli ascoltatori impazziscono per i nani. Sì, assolutamente. Ma senza chitarra non riesco a farlo. No, ma così è un incipit. Ti mettiamo una base se vuoi. Partiamo un po' con i nani, ce l'abbiamo? Sì, ma è una stupidità, io mi rifiuto. No, mi dispiace, ti ripasso adesso. No, aspetta un attimo, aspetta. No, non mi interessa. Ho un urlo per gli ascoltatori. Non mi interessa. Non mi interessa. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Un lungo, interminabile applauso attraversa il paese. Un applauso di gratitudine verso chi, ogni giorno, lotta contro il virus, medici e infermieri. Un applauso che abbraccia i pazienti che resistono. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Siamo costretti di comunicarvi di restare a casa. La situazione è molto grave. Tenere i bambini a casa, gli anziani restano a casa, uscite di casa solo per motivi gravi. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio, aggiustiamo gli ombrelli, l'ombrellaio donne. E allora ma guarda, l'unica droga mia è la figa, Grugiani. Osserva, Sammy, la vita, la vera vita. Buongiorno, miei cari vicini. Vaffanculo! Sì, sì, vaffanculo anche a voi. Ma siete vivi o no? Comunque io ritengo che in questa diretta siano presenti molti ascoltatori della Zanzara, perché sì, c'è gente che chiede di vedere i piedi. Ma non è questo il tipo di diretta, non è questa la situazione. Ma come ti permette? Queste sono cose che dovete chiedere a Cruciani. Esatto. Amico mio Cruciani, parento segaiolo. Ma che pezzo di merda sei, Cruciani? Ma sai che questo è un problema? La Cina sta uscendo dall'epidemia. Ovviamente vi devo dire che in Cina avevano anche dei metodi educativi, pedagogici di diversa efficacia, ecco, rispetto all'Europa. In Cina un cittadino cinese che era uscito dalla quarantena, dalla zona che era in quarantena, si era buttato con la macchina, aveva travolto anche le forze dell'ordine, facevano il blocco stradale e quant'altro. 23 anni, è stato fucilato. Ora nelle democrazie occidentali non esistono questi metodi terapeutici. 23 anni, è stato fucilato. Ora nelle democrazie occidentali non esistono questi metodi terapeutici. Ho bisogno di sorca io, capito? Grazie Sharon. Andiamo avanti, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Il collegamento da casa sua. Non c'è niente da ridere ovviamente, ma noi ridiamo lo stesso. David Parenzo, buonasera. Ovviamente una delle persone più odiate del momento, ma nello stesso tempo c'è anche una parte degli ascoltatori che gli viene incontro, incredibilmente. Alberto Gottardo, buonasera da Padova. Eccolo sul fronte padovano. La resilienza della radio padovana, Radio Caffè, che mi ospita grande, da grande, solo grande, nello studio da solo come un cane. ragazzi, no, tutti hanno paura del contagio questi giorni. Questi giorni ho sbagliato perché il primo giorno gli ho detto che ero morto di fama, invece è un vivo, e qui, per fortuna, e quindi vivo di fama. Certo. Il secondo giorno, sbagliando ancora, gli ho detto che era la corrida di Corrado, dilettante allo sbaraglio. Quindi chiedo scusa. In realtà è semplicemente Mr. Bean, è il Mr. Bean della radio, perché ogni cosa che dice poi si realizza il contrario. E il poi, dramma no, più assoluto si realizza. È Mr. Bean. In ogni caso, è il Mr. Bean, l'unica cosa, l'unica di livello inenarrabile. David. Muore il grande architetto. Il grande architetto, e lui cosa fa? Certo. Dice: vabbè, tanto c'ha 92 anni, Gregotti. Meno male che è morto. No, il grande dice sempre la cosa sbagliata nel momento sbagliato. Mr. Bean è il, non David, è un morto l'unica di fama perché è vivo. No, sono morto di figa. Io sono morto di figa. Sappi che io rimarrò anche malato, anche malato, anche contagiato. Io rimarrò un morto di figa. Va bene, ragazzi, iniziamo bene, come avete sentito. Però, Mr. Bean, prendendo spunto da Vincenzone De Luca, il governatore del mondo, ragazzi, ma quanto non lo vorreste voi, De Luca, a capo del governo in questo momento? Ma non farebbe meglio? Ma no, ma non lo vorresti tu? Ma io lo vorrei lì a comandare a Palazzo Chigi, De Luca. Bravo, sì, molto risoluto, a Palazzo, certo, Chigi, molto il governatore del mondo. Ma che cosa mettono? Personaggetti vari? Lui a comandare tutto. Perché poi molti si lamentano del fatto che la gente ancora esce, passeggia, va a correre, in alcuni casi. Quello è incredibile. In alcuni casi, il festino che c'è stato a Roma, nel Lazio. Sì, anche quello, quel per festino. In alcuni casi addirittura peggio, come nel sud, in alcuni posti, eccetera. Ma la colpa di chi è? Diciamoci la verità, la colpa di chi è? Io pure ieri. Chi è della, io ieri. Del cittadino, no, non, sempre non della politica, è dei cittadini, cittadini non è, colpa, è dei cittadini. Ragazzi, io li voglio assolvere, a parte quelli, quei classi clamorosi. Sei populista, no, per forza, li voglio assolvere. Quando tu nelle tue disposizioni scrive. Ma su, si più raccomanda, di fare i posti di blocco, che devi fare? No, no, più no, di fare i posti di quando blocco, tu che devi nelle fare? Tue disposizioni dici si raccomanda, si consiglia, si può uscire a fare una passeggiata, boh, non si sa, forse sì, forse no. Ma come no? Poi sì, però certo, non ti fanno palazzo, un cazzo, aspetta, no, ma chi lo dice? Non c'è scritto un cazzo. Basta leggerlo. Qua, non come è no? Vero. Lo dicono qua alla Protezione Civile ogni giorno alle 18 quando fanno allora, il bollettino, la conferenza stampa, ogni giorno io lo dicono. Io sono, sì, per questo, io sono di questo avviso. Se tu non scrivi le cose chiaramente, non piazzi i militari, ha ragione De Luca, e non piazzi sono, la, polizia, la polizia, i militari, i carri c'è armati per strada, c'è. La, non c'è, non c'è, purtroppo non, ci, non ce ne sono a sufficienza, la gente armati, continuerà, adesso a, i carri armati ci vogliono. Ma scusa, ma bastava sentire 10 minuti fa, alle 6 c'è il bollettino della Protezione Civile, ogni giorno lo De dicono, Luca, ma ogni giorno spiegano. De Luca. In Cina un cittadino cinese che era uscito dalla quarantena, dalla zona che era in quarantena, si era buttato con la macchina, aveva travolto anche le forze dell'ordine, facevano il blocco stradale e quant'altro, 23 anni, è stato fucilato. Ora nelle democrazie occidentali non esistono questi metodi terapeutici. Terapeutici, proprio. Terapeutici, straordinaria, terapeutici. Giustamente dice che è un'idiozia passeggiare un metro di distanza. Io lo confesso, ieri per esempio sono andato a correre, cosa che non so se ripeterò. No, perché in realtà ti dicono che lo puoi fare. Lo puoi fare, lo puoi fare. Ho fatto un percorso, ovviamente ero lontano dalle persone, anche se sui Naviglia, anche se sui Naviglia, no, lo stesso percorso, anche se sui Naviglia un po' di gente c'era. Ho cercato di evitarla, ma era pieno di gente, non pieno come sempre, come tutte le domeniche, ma c'era gente che passeggiava sui Navigli. Ora io dico, è la stessa cosa, perché io sono andato a correre, dunque mi assumo una responsabilità. Ma se non ti dicono espressamente, se non ti dicono espressamente, lascia perdere il sottoscritto. Se ma non te ti l'hanno dicono, detto in tutte no, le lingue, non è vero, detto, perché che puoi andare a correre, non è vero, non ti se ti ferma la polizia non ti fa un sì, cazzo. Sì, ma se vedi che c'è troppa gente, se tu vedi che sui Navigli c'è tanta gente, il problema non un sono problema. Le persone, il problema sono le cose che sono troppo generiche, i provvedimenti troppo generici, e poi non c'è la gente che li fa rispettare. Non ci sono i militari, non c'è la militarizzazione del territorio. Guarda, che è quello che bisogna attorno fare. A casa mia c'è ancora per quello che ho visto io, a me due volte mi hanno fermato. Ma tu a Prati, a Roma, che c'entra? Abbiamo sentito qualche comunicazione che è arrivata da Roma assolutamente sbagliata, perfino Ministero dell'Interno, e cioè si può passeggiare purché si mantenga un metro di distanza. Questa è un'idiozia, non si può camminare per strada senza ragione motivata. Beh, vedi che c'è confusione, perché manco De Luca smentisce. Ragazzi, c'è confusione su queste cose qua. Peraltro lo dice per perché il, non c'è per il sud, la perché? Militarizzazione del territorio, non c'è il coprifuoco, quello che bisognerebbe fare con sanzioni gravissime. Se tu hai preso una strada, quella deve essere poi. Dai, su. Ma c'è questo, c'è. Poi c'è il caso del sindaco di Agropoli, signor Coppola. Avete vabbè, sentito parlare Gottardo del signor Coppola? Signor vabbè, Coppola. Certo. Signor è Coppola un mito assoluto. Dice prima state a casa, molto seriamente, state a casa i suoi cittadini, senti. Lì siamo. Mi raccomando però, la raccomandazione che abbiamo fatto in questi giorni, che ripetiamo a tutti voi. Ripetiamola. Dobbiamo restare a casa, rispettiamo le regole che ci sono state indicate e... io sono sicuro che le cose andranno bene. Vabbè, la solita cosa che si sente in questi giorni, che è anche un po' stufato, ma è ovvio, bisogna dirla, perché bisogna dirla, eccetera. Poi a un certo punto esce, sostanzialmente scende dalla macchina e incontra un po' di medici, operatori sanitari, eccetera, con cui abbracci, selfie, contraddicendo sì, completamente quello che aveva detto prima. Sindaco, abbracci. Senti l'amore per il sindaco. Incredibile. Sgarbi, ragazzi, Sgarbone continua la sua battaglia, senti. Il sindaco di Sutri. No, tra l'altro lo hanno denunciato. Io trovo che sia una cosa incredibile. In questo weekend un'associazione di scienziati, tra cui c'è anche Burioni, Lopalco ed altri, lo hanno denunciato. Il tribunale del popolo. Ma ragazzi, ma che certo, cazzo denunciate? Gottardo non l'hanno denunciato, Gottardo. Ma che c'entra, no, dai. Scusami, ma perché dovrebbero denunciare? Non lo conoscono ancora. Magari lo denunciano, ma a parte che lui non ha detto le stesse cose che dice Sgarbi ancora. Non è che ha detto andate a Codogno, come ha detto Sgarbi, eh. Non è che ha detto il virus del buco del culo. Comunque, in ogni caso Sgarbi, non cambio idea, non mi fate paura. Però ragazzi, la denuncia nei confronti di Sgarbi, non so per che cosa, per 3 reati mi hanno detto, procurato allarme. Ma si fa seria, ragazzi. Ma non c'entra. Seria. Ma lascia perdere che si fa seria o non si fa seria. Non, che cazzo c'entra la libertà di opinione di se un deputato? Se tu dici che già la gente è confusa, hai appena detto i cittadini sono confusi. Io penso che i cittadini devono essere informati. Ma la denuncia penale che senso ha? Se in più uno dice delle cose che creano un problema, ma quello è un pensiero. Ma non è pensiero unico sul provvedimento. Non è che ha incitato, a parte una frase che ha detto alzatevi, andate, uscite, andate a Codogno, che chiaramente è una cosa, è una performance artistica. È chiaro che non voleva dire quello. Chiaro. Non è quello, non ha incitato le persone a infrangere la legge, mi sembra chiaro, no? Ha una sua idea sul virus, punto e basta. Ci sarà la libertà di dirlo o no? O non c'è più? O siamo in un sistema in cui non c'è la libertà? Ma no, poi, certo che c'è, allora, ma bisogna dire che è una follia che non ha nessuna base scientifica, peraltro. E che è pericoloso. Sentitemi, io non cambio idea. Non perché voglia avere ragione, ma perché è mio diritto dubitare degli arroganti e di quelli che diffondono menzogne. Voi siete tutti impauriti, lo so da come ce l'avete con me. Io non ho paura, resto in casa e non ho paura e non dico neanche che è bello stare in casa. Non vi prendo in giro. Siete quattro froci. La Zanzara. Sette giorni dall'inizio del contagio e Cruciani è in perfetta forma. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Guardo il lato positivo del coronavirus. Sono uscito un attimo per portare fuori il cane. E ho preso la macchina perché devo andare un attimo al bar a fare un lavoro al computer. E la cosa bella, sai qual è, amico mio? Che agli incroci non guardi neanche più posso, non posso, chi ha la precedenza. All'incrocio vai a palla. Chi l'ha creata? Chi l'ha creata questa crisi? Ragazzi, chi l'ha certamente creata? Non chi io. L'ha creata? Forza! Chi l'ha creata? L'ha creata l'operaio che lavorava poco, no, o perché no, c'era il Rom? Ma chi l'ha creata questa crisi? L'hanno creata le banche, l'ha creato questo sistema. Basta! Basta! Oh! Parlava dall'altra volta! Chi l'ha creata questa crisi? Chi l'ha creata? Ancora sgarbi, vai all'assalto oggi, ancora all'assalto, non molla, fa un passo indietro e uno in avanti, Un po' si pente, anzi no, dice beh chiedo scusa, quel virologo non lo devo più citare, eccetera eccetera, avete ragione voi, forse. Poi però torna all'attacco, è una tattica sgarbiana, un passo indietro e poi un contrattacco. Bene, la paura che dovete avere è una paura che vi è stata introdotta da tutte le immagini televisive, da tutti gli ospedali, i camici, i malati, le mascherine e da alcuni virologi, non tutti. Oggi, dopo tanti giorni, due soli sono i casi accertati, lo continuo a dire, non ascoltatemi, ascoltate allora Burioni, ascoltate quelli che vogliono crearvi paura, non so per quale ragione, non voglio dire che ci sia nessuna ragione misteriosa, ma io mi fido dei virologi che sono evidentemente persone in buona fede e che non saranno forse matti e i vostri saranno quelli savi, ma non sono tutti d'accordo, e mi fido del Papa e mi chiedo perché tabaccai aperti e chiese questo. Chiuse e questa è la logica, c'è qualcosa che non mi convince. Ma che c'entra? Mi fido il Papa del Papa. Non è un virologo, Papa ha fatto una passeggiata, non poi è un virologo il Papa. Peraltro ha fatto la passeggiata senza mascherina, è vero, senza mascherina, forse nemmeno, e forse anche senza permesso, cioè senza quel famoso papiello, no? Beh, il Papa però, scusami, no, adesso, per il Papa, carità, non però, è che qualcuno lo ferma e gli dice scusi signor Papa, dove sta andando? Questo non mi sembra il caso, però, insomma, no? Non so se c'era dietro il papiello che devono avere. Vabbè, ma tutti che c'era dietro la scorta, ma che messaggio avrebbe dato a tutto il mondo il Papa con la mascherina? Pensaci un attimo. No, ma infatti è una battuta, che cazzo, figurati. Ma tu ce l'hai la mascherina a Milano almeno? Sì, ce l'ho, non esco, per cui non esco pochissimo, per cui non la metto. Quindi quando corri anche tu, io la esco, ogni volta che esco metto la mascherina come da prescrizione. No, non ce l'ho, quando vado a correre, Quando vai a correre non la metto. No, ma non si mette la mascherina. Mai, quando vado al supermercato. Quando vado al supermercato. Sì, e i guanti anche, te li metti i guanti? Guanti, sì, guanti, certo. Ah, bravo, bene. E che devo fare, scusa? Che devo fare? No, no, appunto, faccio? Perché voglio dire, bravo, no, perché sennò sembriamo matti tutti noi. Poi, dai, se contardo vuole andare in giro nudo per porro la città, va benissimo, porro, chi se ne frega. Porro, no, ma infatti io non uso né mascherina né guanti, perché a quanto mi riguarda non è obbligatorio. Prendo l'autobus, la gente è tranquilla, gli autisti sono senza mascherina. Abbraccia tutti, tocca tutto. Ecco, no, questo non abbraccio nessuno, non tocco nessuno. Ma gli autisti a Roma hanno la mascherina, dell'autobus invece che ho incontrato io non hanno la mascherina. Allora, ragazzi, hanno una distanza di sicurezza. Porro incazzato con quelli che fanno le canzonette dal balcone, molto di moda in questi giorni. Guarito le canzonette, porro, sembra, no? Sembra che stia meglio, sì, non ha più la febbre. Ottimo. Le canzonette dal balcone. Ora io, ragazzi, perché ognuno fa quello che vuole nella vita, anche a me mi stanno sui coglioni, non so perché. Mi sembra alle persone normali, ma quelli che poi postano le performance. È un passatempo. Sì, dai, è un passatempo. Ma è anche una forma di esibizionismo. Basta con queste canzonette, sì, dal balcone. Ma gli dà un po' il senso di appartenenza. È un'evoluzione, dai, delle sardine, dai. È un'evoluzione, dai, delle sardine. Su. Sono sardine da balcone, dai. Ma dai, ma basta con sta roba, le canzonette dal balcone. In tanti che abbiamo fatto. Come le sardine. Qualcuno dice anche con i morti ti metti a fare le canzonette dal balcone, quattro risate e posti pure il video. Ma che roba è, dai, su. Comunque, sentiamo Porro. Nel momento in cui sono morte 1100 persone, 446 tra gli 80 e gli 89, 360 tra i 70 e i 75, ma anche 80 tra i 60 e i 65 anni, questo è il report dei morti, secondo voi il fatto di essersi appropriati dei balconi e fare quattro canzonette del cazzo è un grande successo dell'Italia finalmente unita? Cazzo me ne frega che il primo weekend senza weekend, quando ci sono 1000 morti in Lombardia e non riescono a risolvere il problema delle terapie intensive e non riescono a trovare le ventilazioni. Il primo weekend senza weekend. E io che canto, sono un italiano con un partigiano come presidente al balcone. Ma mi sembra una roba ridicola. E poi, per la gioia di Parenzo, Capezzone. Capezzone. No, però devo Capezzone. Dire che è un grande. Capezzone. In questo caso Capezzone. un grandissimo. Cosa dice Capezzone? Perché dice di che critichiamo Trump, Boris Johnson, eccetera, mentre abbiamo il record dei morti, aspetta. Ma cosa c'è? Ma aspetta. Io sento troppi politici italiani, troppi commentatori italiani che passano il tempo a dire che Boris Johnson è cattivo, che Trump è un deficiente, a dare la morale e a fare le pagelle a tutti gli altri nel mondo. Io lo dico col dolore di italiano che siamo noi quelli che hanno il record mondiale dei morti. Questo è un paese dove un mese fa il governo, con lo spot ufficiale del Ministero della Salute, con un testimonial, raccontava balle in un ristorante cinese con le bacchette, dicendo che il contagio non è affatto facile. Abbiamo avuto un governo che per 20 giorni diceva abbraccia un cinese, è un tema di razzismo e non di emergenza sanitaria. Poi improvvisamente ha drammatizzato, poi non ha drammatizzato più, bisognava tenere Milano aperta, bisognava fare gli aperitivi. Simone da Recanati, avanti tutta, ha perfettamente ragione. Che scempiate dice questo qua? No, ha perfettamente ragione, Simone da Recanati, perfettamente ragione. Perfettamente. Ma cos'è che è una follia? Ma che follia? Ha detto, ha detto la realtà. Simone, ma a trovare c'entra? Gli studenti cinesi, Simone, a scuola, ma cosa pure c'entra? Il capo dello Stato, Simone, che vuol dire? Simone da Recanati, dai, Simone. Pur di prendersela col governo, difende Simone Boris Johnson e Trump. Ma non difende, veramente non sta difendendo nessuno. Dimmi, dimmi Simone. Meno male che non c'è lui al governo a gestire sta roba, altro che. Dimmi. Pronto, sono io? Simone, dimmi, dai. No, sono da cattolica, vabbè, pensavo di non essere io. Vabbè, Marco da Milano, mi hai rotto i coglioni già. Marco da Milano, dai, Marco. Marco? Ci sei? Pronto? Dimmi. Sono. Fabio da Brindisi, pronto? Ragazzi, dai, forza ragazzi, dai, Fabio da Brindisi. Sì, buonasera. Dimmi, sì, dimmi. Buonasera. Senti, io volevo sapere se Parenzo ha chiesto scusa al professor Meluzzi riguardo il coronavirus. Perché? No, perché ricordo una trasmissione, cioè una trasmissione, sì, che stavate facendo un giorno e che stavate litigando col professor Meluzzi. Perché dicevate che non c'era, non bisogna avere paura, tutte queste cose qua. Non ha chiesto scusa. Possiamo rimandare quel pezzo in onda? Se no, non ha chiesto scusa, assolutamente. No, così si capisce il contesto. Perché dovrebbe chiedere si scusa a Meluzzi? Ascoltarlo ascoltando il contesto. No, perché ricordo che praticamente era molto accesa la discussione e veniva attaccato il professor Meluzzi, che secondo me giustamente diceva che dovevamo prendere precauzioni, che ci sarebbero stati molti morti, e invece lo vedevo che lo stavate un po' quasi deridendo. Scusami amico, però Meluzzi sì. la raccontava come se fosse un'ecatombe che in confronto la peste bubonica sembrava una passeggiata di salute. Vabbè, questo però. Adesso, contestualizzando un attimo i numeri, finora in Italia con un rallentamento dei contagi abbiamo avuto un numero importante di vittime, ma non è l'ecatombe, non sono i 2 milioni di contagiati aspetta, pareggiava Marco, anche in Veneto. Marco da Milano, vai Marco, dimmi. Ci sarà una proporzione nelle cose. Marco, dimmi. Io sono un piccolo imprenditore di Milano e ho la ditta a Bergamo. Dimmi. Devo fare solo due precisazioni. La situazione è tragica da noi perché i dipendenti stanno a casa, chi ha paura, chi è malato. Lo sappiamo. Dunque... non consegnano più. E quindi quello che ha fatto adesso il governo di dare 9 settimane di cassa integrazione straordinaria non ha copertura. Lo sanno. Vabbè, però ragazzi, non è che possiamo. Che cosa vuoi da noi, Marco? Dimmi. Il problema è che alla riapertura ci sarà un disastro. Quindi devono fare. Vedremo, Marco. Fermi tutti. One Express, il pallet express. Vi presenta la zanzara. Ringraziando a Dio, faccio quello che fai di rompo, sfascio, sono ultra. Piaggia, rompo, faccio, mi diverto, capito che voglio dire? Ho 60 anni, però mi diverto. Devo vedere un po', devo cercare di avvisare qualcuno, dire per cortesia, chiudete le assi merdose. Togliere un po' di merda dall'Italia, chiudono sta trasmissione del cazzo, tu e quell'altro frocioli, quel nano del cazzo. Questi demo che fanno la musica rap, trap, trap, trap, una razza aperta, che cazzo, per me, un mare di cocci, prima la musica era melodia, musica rap, trap, trap, trap, rap, 2020, anno bisesto, anno smesso. Giro in ma, gira a caso, gira cose, Ruben Sosa, bruciamo fiori, non rose cose, mamma stai tranquilla, mamma sosa, perda fre, nuova a me, sogni in me. E che cos'è? Nell'età, fazzole, mai pia, fai una se, blow job, nuova squa, mai una gio, mai una gio. State ascoltando musica giovane. La zanzara. Mischia bene, master shine, fai una se, taglia le, giro a pia, passa il fragile ma, 5 col fra che già giro a pia. Tipo quel tipo di tipo fra, tipo col tipo di tipo fra, ti pario contra fra, tipo quel tipo che è il tipo di tipo. tipo da tipo del tipo fe. Prima la musica era melodia, passione. Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. Se la differenza tra l'Italia e la Cina è che qui in Italia un testa di cazzo come Sgarbi o un ricoglionito come Gottardo possono parlare e in Cina no, bene, un miliardo di volte, ma viva la Cina! Spero che dopo questo fine settimana Gottardo chieda umilmente scusa di tutte le stronzate che ha detto nei giorni precedenti. Chieda scusa a tutta l'Italia, a tutti i sanitari, a tutti i dottori che sono coinvolti in questa pandemia, come dice l'OMS. Spero che chieda scusa. Allora ragazzi, a parte le scuse di Gottardo, scusa di cosa? Ma scusa di cosa? La gente è incazzata perché sono in rallentamento. I contagi sono in rallentamento esattamente come era prevedibile. Ma non c'entra niente. Io non ho mai detto che i medici sono degli stronzi, che gli infermieri sono degli stronzi. Non ho mai sminuito fin dall'inizio, è una influenza banale, hai detto. No, banale non l'ho mai detto, che ha degli esiti avversi peggiori della normale influenza. Ma hai detto una stronzata per una settimana, hai continuato a dire una stronzata, adesso si è capito che non è così, basta. Sai cosa succederà? Che alla fine i morti saranno meno dei 20.000 di influenza l'anno scorso. Allora, sentite il sindaco di Caltanissetta contro i suoi cittadini. Sentite, numero uno. No, non è di Caltanissetta, è un paese vicino Caltanissetta, scusate, Il paesino in provincia di Caltanissetta. Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di aver fatti i capelli a casa, il parrucchiere a domicilio, ma sti capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Me lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Ma ragazzi, io corro da 20 anni, tra alti e bassi corro da 20 anni, e a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina, ora tutti i podisti sono diventati a Delia, tutti che vogliono correre, ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre, la scuola elementare, ma dove andate a correre? E sei incazzato perché tutti quanti vogliono uscire da casa per andare a correre, però bisogna dire la verità, ancora una volta. Cioè, è giusto che il sindaco faccia così. Non c'è scritto un cazzo di chiaro. Nulla manco, scritto chiaramente. Ma lo dicono tutti ogni non è giorno. Allora, insisti. La gente, tutti se non gli metti la polizia con la pistola, su 24. E non c'è. Non si esce per fare cazzate, si esce per fare la spesa e basta. Questo ma non è vero, milioni ma di volte. Non puoi lasciare alla buona volontà. Ma appunto, ma che c'è? Ma non dico alla buona volontà, ma il Ministero degli Interni. Ma cosa devono fare di più? A me, ad esempio, a me me l'hanno spiegato. Io l'ho capito, come io l'ho capito e altri no? Vabbè, come no. Mai? Ma non è che sia più intelligente di altri, notoriamente. Poi la gente ruba? Come è scritto non uccidere, la gente uccide? D'accordo, ma la sanzione non basta scrivere, infatti devi avere un buon motivo per uscire, cioè andare a fare la spesa. Certo. Ma non è così, se c'è gente che va a fare la passeggiata, e tu gli dici che è possibile farlo o che è possibile andare a correre. Ma voi non avete mai sentito la conferenza stampa della Protezione Civile tutti i giorni, da settimane, mai. Delle autorità. Tutti i giorni ripetono le stesse cose. Ogni giorno ripetono le stesse cose. Mi chiamano sindaco, io devo andare a Canicattì a fare la spesa. A Canicattì non ci puoi andare a fare la spesa. La spesa la fai a Delia. Salvo che ti serve qualcosa di importante che a Delia non hanno. Un farmaco salvavita, un alimento per un'intolleranza. Dove vai? Mi chiamano sindaco, il mio cane mangia le crocchette che vendono solo a Caltanissetta. Ma questa la chiamiamo serietà. Vedi, il sindaco ha ragione. Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostare carne, a fare barbecue, ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza? facevano delle feste in un condominio. Ci sono andato io solo oggi, di domenica. E siamo sindaco, siamo tutti quelli del condominio. Ma il contagio lì è. Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia, non con i vicini di casa. Che poi voglio vedere questi vicini di casa che confidenza avete. Tutt'ora sti buon vicinato, c'è Adelia. Vogliamo fare i seri o no? Vogliamo fare le persone diligenti o no? Le cugineggi a casa, tutti che abbastano cugineggi con gli amici. Cioè, ma veramente qualcuno ce l'ha in testa il neurone? Ce l'ha qualche neurone o sono tutti spenti sti neuroni? Vabbè, il barbecue a casa con gli amici nel condominio è una cosa, la passeggiata è una cosa diversa, cioè sono due cose diverse, sono due cose completamente diverse. Per esempio, moltissime persone mi segnalano con delle foto che stamattina verso le ore 6 alle 7 le metropolitane di Milano erano affollatissime, pieno di gente così, pieno, non tutti con la mascherina, pieno. Cosa significa questo? Primo, di lunedì la gente va a lavorare. Certo, va a lavorare, piene con gente ammassata dentro alle 6 alle 7, circolano delle foto dappertutto, foto vere, non finte come quella di Burioni che ha postato una foto degli anni 80 di Roma. Il punto è una cosa incredibile, però incredibilissimo. No, però no, incredibile. Infallibile. L'infallibile, beh, Burioni, no, che denuncia Sgarbi. Ma anche lui, ecco Mr. Bean, anche lui può fare una cazzata. Come la Madonna Pellegrina, Burioni non si contesta. Ecco Mr. Bean, Burioni, che torna. Burioni ecco ministro della salute, ma certo che subito, si contesta, allora. Certo, ecco che nessuno lo vuole ministro della salute. Allora ragazzi, no, vi sto dicendo una cosa. Ecco il prossimo scivolone, ecco lo scivolone della giornata. Zitto un attimo. Ogni giorno deve pestare un merdone, ogni giorno. Il problema è un altro. Se tu alle 6 di mattina hai ammesso le corse, soprattutto le hai tagliate le corse, hai consentito alla metropolitana di andare avanti giustamente per le persone che devono andare a lavorare, e hai anche tagliato le corse, è evidente che la gente si ammasserà. Allora che cazzo protesti poi? Cioè, ma è inutile protestare il sindaco dicendo come è possibile che ci sia l'ammassamento di persone. Cioè devi triplicare le corse al limite. Chiaro. Cioè devi mettere 4 volte le corse, così la gente si diluisce, no? Invece tutti ammassati perché le corse sono state diminuite. Dai, su. Ah, Marco da Bergamo, no, Tommaso da Bologna. Vai, Tommaso, dimmi. Tommaso. Ciao, vabbè. Dimmi Tommaso. Vai. Senti, ciao, intanto caro, riguardo a quello che dicevate prima, volevo dire, poi perché i tabaccai aperti per le sigarette gratta e vinci? Questa è una cosa che ti devo dire, pure per me è inspiegabile, però la gente vuole fumare, giustamente poi... No, non solo, anche pagare una bolletta magari. Bollette non è quello. Ci fa pensare ad altro. Però un'altra cosa, Giuseppe. Hai la radio alta. No, non ce l'ho per niente. Ok, vai. Sto proprio fuori. Senti un'altra cosa, io ho dato un messaggio, ho fatto una proposta. Ma perché una volta non mettete Porro insieme a Gottardo? Sarebbe 2-2, non sarebbe una bella cosa? Lucio da Pavia, ci manca solo il quarto. Lucio da Pavia, vai, Lucio, dimmi. Dimmi, Lucio. Allora, ciao Peppino. Quindi dire a Gottardo, se gli dico che è un coglione mi denuncia. Non credo, no, proprio. Te lo spiego, però mi devi lasciar passare a parlare. Sì, intanto certo. Tu da giornalista fai un servizio pessimo, perché sei pericoloso. Ex. Sei più pericoloso alla stregua di Sgarbi e altri deficienti. Allora, io ti voglio semplicemente dire queste cose. Nel 2019 sono morte, 2019 un anno, sono morte 8.000 persone per influenza e complicanze per l'influenza. Quindi significa che sono morte 666 persone al mese. Ne sono morte oggi in un mese quasi più di 2.000 persone. Certo. Lo capisci qual è la differenza dei numeri che tu dici in radio? Qual è la differenza? La capisci? Che se muoiono 2.000 persone al mese... Non arriviamo agli stessi dati del Paese. Speriamo che non muoiano tutti i mesi. Sono in rallentamento i contagi. Fammi finire di parlare. Quello che tu fai è una cosa pericolosa, perché la gente pensa di prendere semplicemente un'influenza, ma non capisce che diventa vettore e diventa pericoloso per l'altro. Tu dici pericoloso è Mr. Bean, ma Mr. Bean non è mai pericoloso, fa ridere Mr. Bean. L'abbiamo spiegato in tutte le maniere. Nell'80% dei casi uno rimane un vettore, è vero, ma non rischia di morire nell'80% dei casi. Però infetta gli altri, puoi infettare gli altri. Certo, se vai in giro dai nonni o dai propri genitori anziani, appunto, cosa che io non faccio da 4 settimane, quindi è una cosa pericolosa. L'ho detto sin dall'inizio, quindi che non è un'influenza normale. È pericoloso. Hai detto una stronzata. Facciamo risentire quello che hai detto una settimana fa. Francesco da Bari. Buonasera. Dimmi, come la gente è incazzata. Dimmi, Francesco. Senta, io vorrei dire una cosa. Cioè, se per me questa è tutta una cavolata, questa cosa che sta succedendo. Perché sì, è una cavolata. Insomma, è arrivato Francesco da Bari a dire che è una cavolata. Francesco da Bari dice che è una cavolata. Avanti. Scusami, fammi parlare. Come Carla Bruni, stai zitto un attimo. Carla Bruni, ex Premier Dam, tuttora signora Sarkozy, l'altro giorno che cosa ha fatto? Una specie di incontro sulla moda, o un galà della moda a Parigi o non so dove, ha baciato, ha salutato dicendo noi non siamo femministi, il pericolo eccetera eccetera, alla fine ha fatto un colpo di tosse come se fosse affetta da coronavirus sulle persone da pigliare per il culo, poi ha chiesto scusa naturalmente. Questa Carla Bruni, capito? Un idolo per alcuni, un idolo, Carla Bruni. Allora Francesco, che vuoi? Sempre stavo dicendo come è stata gestita la situazione, le comunicazioni che hanno dato alla gente, io questo sto dicendo, perché praticamente loro prima erano indecisi sulle scuole, mandano il decreto, tutti che postano le scuole chiuse e poi le scuole non erano chiuse. Hanno creato allarmismo in Lombardia, creando fughe di massa. Vabbè, questo l'abbiamo già visto, tra l'altro nel weekend ancora. Sì. E allora? Dunque? Hanno creato allarmismo. Vabbè, dunque? 19.000 persone. Sì, sì, allora? Volevo dire solo che qui noi non reggiamo il peso. Vabbè, questo lo sappiamo. Un'altra follia è stata quella che ancora sono i treni, eccetera, nei weekend circolavano, poi a un certo punto sono stati bloccati. No, di notte. A proposito, poi, oltre a questo che dice sto signore qui, che è una follia assoluta. Ma qualcuno ha avvisato il buon Capezzone che Boris Johnson sta facendo marcia indietro o no? Su quello fermola, che ha detto? Cioè, qualcuno telefoni al Capezzone per dirglielo, poveretto. Fermola. Siamo stati colpiti, ma siamo consapevoli. Siamo distanti, ma siamo uniti. Siamo italiani. Venerdì 20 marzo, ore 11, alza il volume della tua radio. Esci sul balcone, sventola un tricolore o ciò che ti fa sentire italiano e canta. Canteremo tutti insieme. Tira fuori tutto. La speranza, la voglia e la forza e l'orgoglio di essere italiani per sentirci più vicini. Per la prima volta nella storia, tutte le radio unite sono con te. La radio per l'Italia. E ricorda, andrà tutto bene. La Zanzara. L'altro suo compare, là accanto, il romano. Get your kicks, get your kicks. You gotta run real fast from the gloomy grips. You keep the bad thoughts out and the smoke away. Come on and get yourself together. Francia Lenzo. Eccoci. Se potete chiamare i carabinieri. Ora qualcuno mi dovrà dire e spiegare e magari anche convincere che chi si va a fare i capelli, chi si va a fare la tintura, chi si va a ciappettare ogni epi è un motivo di salute o di lavoro o di necessità. Io non credo che sia questo. Non lo so, anche a vederlo per strada è chiaro che la gente poi viene indotta a pensare che stiamo scherzando, perché ribadisco, insisto, la pizza a casa me la possono portare, a pittarmi le unghie posso andare, a tirarmi i peli sulle cosce posso andare, a pittarmi il muso posso andare, a pittarmi i capelli posso andare, cioè dove cazzo sta questa necessità, questa urgenza, questa motivi di lavoro, cioè voglio dire, e questa è la cosa bella. Quindi abbiamo scoperto da adesso che pittarsi le unghie, pittarsi i capelli, tirarsi i peli sulle gambe è una cosa necessaria. Signor Augusto, non potevo capire che io per la spiaggia e non è che potevo arrivare per la spiaggia King Kong, no. E si doveva chiaramente depilare. Ma se siamo a febbraio, a marzo, è vero che non fa freddo, ma immagino che nessuno ha necessità di andare in spiaggia adesso. E quindi non ci poteva nessuno se esce King Kong da sotto la cavazzina, no? E quindi potremmo mandare un po', ma evidentemente la penso strano così. Cociani, questi camionisti che si lamentano, nonostante siano tra i pochi a lavorare, e mi viene da dire fortunati, visto che io come molti altri liberi professionisti bloccati ci stiamo perdendo migliaia se non milioni di euro, questi camionisti che rompono i coglioni perché non sanno dove andare a mangiare, evidentemente la loro terza elementare non gli basta nemmeno per farsi un panino, se ne vadano a fare in culo, ok? Tutta l'Italia è ferma, se loro non possono andare dalla trattoria dello Zozzone per mangiare, per cenare, si facciano i panini, non rompano i coglioni. Ma la chiudano la Confindustria! Che ci sta a fare la Confindustria? Vecchio audio di Giuliano Ferrara. Quello che avete Vecchio sentito Giuliano. Prima invece era il mitologico sindaco di Lucera, il grande sindaco di Lucera, protagonista in questi giorni di questo video straordinario, straordinario. Sindaco di Lucera, King Kong, Antonio Tutolo, grande. Tommaso Forlì, vai, Tommaso. Dimmi. Ah, ragazzi, io volevo fare un discorso sulla assenza totale dell'Unione Europea in questi giorni di pensa, corona, di pensa, pandemia, pensa quanto gliene frega la gente di sta cazzata. Cioè, pensa sì, la gente adesso quanto sta pensando, Dio, l'Unione Europea, non gliene frega un cazzo dell'Unione Europea. Non gliene frega nulla, zero. Le nostre competenze. Guarda, ha fatto molto più, ha fatto, Tommaso, te la risolvo in questo modo, ha fatto molto più Pornhub in questi giorni dell'Unione Europea. Molto di più Pornhub alla grande dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea, con la cazzata della Lagarde, eccetera. Pornhub molto più efficace e molto più efficiente dell'Unione Europea. Ha della gente come Parenzo che difende l'Unione Europea a spada tratta. Ma quello è un altro discorso. Io non entro nel merito con lei perché non mi sembra questo il contesto. No, Pornhub. Lei non sa un cazzo. L'Unione Europea non ha alcuna competenza in materia sanitaria. L'Unione Europea non ha nessuna competenza in materia di sanità pubblica. Paolo da Firenze. Paolo da Firenze. Vai, Paolo. Dimmi. Ciao, fratello. Dimmi. Senti, io il 99% di quello che dice solitamente Parenzo non sono d'accordo, ma questa volta quando danno imbecille di cretino, di ignorante, che è il termine più giusto, a Gottardo, che No, Mr. Bean. Calma, allora pasticcione, Paolo, dimmi, pasticcione. Allora... È in assenza Gottardo, in assenza di tutto. Ma guarda che tira fuori dei numeri assurdi. Quasi le stesse cose, allora, le posso dare questa informazione? Le stesse cose che sostenevo io, cioè che si stanno rallentando le progressioni dei contagi, lo dice anche il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma tu lo dicevi una settimana fa, quando eravamo dicevi queste stronzate, i nomi, David, se guardi la progressione non è più esponenziale da 4 giorni, lui io male, da 5 giorni male, che lo dico. Lui sta male. Paolo, però è vero che venerdì sera io ho sentito bene quell'audio. L'Istituto Superiore della Sanità, il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, ha detto che in realtà poi forse sono aumentati in questi altri giorni, non lo so, i morti accertati solamente i morti accertati solamente di coronavirus sono due, erano due, l'ha detto lui, l'ha detto lui. Cioè, gli altri... No, ma che c'entra? Ma quelli che sono complicazioni, però è uguale. No, ma non sto dicendo che non è grave anche quelli che sono morti col resto, però ha detto quelli morti. Ma voglio spiegare a Bergamo, Brescia. Non lo so se quello era computato in queste cose qua. Marco da Bergamo. Dalla settimana scorsa, lo dico, 98% ha più di 70 anni, 98% delle Marco vittime. Da Bergamo, però, vai. Se questo bene a scandalo, ragazzi. Sì, ciao. Dimmi, Marco, dimmi. Ma non è perché sono vecchi che devono morire di coronavirus, però che ragionamento no, è? Però contestualizzi, però contestualizzi un po'. Vai Marco, dimmi. Ma che cosa vuol dire? Sì, mi chiedevo, allora, io avevo telefonato prima, la domanda era su Casalino, perché lo vedo una persona incompetente, ma non era questo che mi interessa in questo momento. Io mi domando e chiedo a voi, come mai gli italiani turisti che stanno su delle navi vengono fermati, bloccati e non vengono fatti scendere nonostante che loro... possono avere anche dei soldi da spendere in altri paesi. Non lo so, ma scusa Marco, adesso qual e è il problema? Continuiamo a vedere, perché noi ci continuiamo a far entrare altra gente dall'Africa. Con ma chi l'ha detto? Ma quando mai non arriva più nessuno? Ma sono anche l'altro giorno. Ma non arriva più nessuno. Va bene, Alberto da Padova. Alberto da Padova, dimmi. Ciao. No, volevo appoggiare Parenzo, visto che Gottardo forse ha la memoria... Sento male, Pietro da Milano, togli via voce l'auricolare, Pietro da Milano, vai. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Io volevo sottolineare un aspetto positivo di questa emergenza, di questo dramma che stiamo vivendo. Qual è? Dimmi. E i toni si sono abbassati. E stiamo, gli odiatori non li sento più, non li sento più. Dovremmo imparare anche dopo. Ma dove? Perché dici? Sono dove? Mesi o anni. Sono mesi o anni che sentiamo parlare male dell'altro, sempre con tantissima aggressività. E i comunisti contro i fascisti contro i comunisti, e gli europei contro i cinesi, e gli italiani del nord contro quelli del sud e viceversa. Io mi fischiano le orecchie. Mi fischiano le orecchie, non so li sento più. Ma sai che non so di che cazzo stai parlando. È chiaro che quando tutto il paese, sto parlando dei toni elevati, quando tutto il paese è concentrato su una questione che si chiama sopravvivenza, sopravvivenza, perché per molte persone è una questione di sopravvivenza, di paura, eccetera, rispetto a quello che può accadere. È evidente che non si parla più di altre cose, ma su questo non c'è dubbio. E dovremmo impararla questa lezione. Ma che vuol dire? Ma è una cazzata quella che dici tu, perché le divisioni ci saranno, giustamente le divisioni ci saranno sempre, le discussioni. Sì, ci ma è utile che in democrazia ci siano divisioni, quello è utile. Ma quello è un altro discorso. Sì, ma con un po' di costruttività. Sì, ma non vuol dire niente. Guarda, te ne offro subito una. No, leggo un'intervista di Fabio Fazio, credo su Repubblica, non so dove, in cui dice le seguenti frasi. Questa storia ci insegna che i porti devono rimanere sempre aperti. Ma che cazzo vuol dire? Ma non vuol dire assolutamente nulla. Altri, ma non vuol dire un cazzo. Ma non vuol dire un cazzo. Non vuol dire che un cazzo. Che noi stiamo provando, perché stiamo vivendo una situazione particolare. Ma che c'entra col modo in cui gestire l'immigrazione? Cerchiamo di capire che chi arriva, se scappa dalla guerra, ha bisogno di accoglienza. Ma non c'entra nulla, meglio l'accoglienza, ma lo vedi, di queste persone. Ho trovato un argomento di divisione. Questa frase no, qui, ma è proprio l'empatia rispetto ma alle sfide degli altri. Ma non c'entra un cazzo. Allora scusa, non ho capito. Quelli che non vogliono immigrati clandestini, allora non provano empatia. Quelli che non vogliono immigrati clandestini, certo, non provano empatia. Quando il problema riguarda sempre gli altri, molto più genericamente, quando il problema riguarda gli altri, ce ne fottiamo. Ma cosa c'entra? Fino a qualche settimana fa qualcuno poteva dire sì, mi dispiace per la Lombardia, però per fortuna non capita a me. L'atteggiamento purtroppo umano è questo qui. No? È un argomento poi quando ridicolo. Ti capita a te, quando ti capita, dici beh, caspita, però forse aiutarsi a vicenda serve. Ma cosa c'entra l'aiuto aiutarsi a vicenda con guarda la gestione gli Stati Uniti, guarda l'Inghilterra, guarda tutti gli altri paesi d'Europa. Vabbè. A un certo punto no, è un ragionamento sull'empatia. Ma cioè, non c'entra i paesi niente. D'Europa, la Francia, fino a poco tempo fa, con le politiche. Riguarda l'Italia. Ma, certo, vabbè. La politica è empatia, ma per dare delle risposte. Se è empatia alla fine. Ah no. No, no. Allora mandate tutti a far culo, no, che c'entra? Morite tutti. Morite di fame. Ma cosa tutti, c'entra? Cosa c'entra? Ma sì, mandate a morire ammazzati. Chi ragazzi, se prega, comunque, la cosa più straordinaria è successa a Trento, dove un ciclista di Rovereto è stato fermato. È stato fermato. Vi faccio osteopata. Sentire. Una cosa incredibile, un osteopata, il quale ha detto: questo decreto è una bufala, non lo accetto. E si è appellato. È il Gottardo di Trento, praticamente. Il Gottardo di Trento. No, sti cazzi, sti cazzi. Questo è il non lo accetto. Trento, e si è appellato. Mister Bean si è appellato al diritto internazionale. Ah no, vabbè, questo. L'ordinanza è un decreto che è fatto per i soggetti giuridici, persone fisiche, quindi per tutti i cittadini italiani. Io invece sono persona umana, soggetto di diritto internazionale, quindi e non sono soggetto a queste norme, a meno che non ne do consenso. Cioè praticamente era circondato dai poliziotti che l'avevano fermato, ciclista, lui vestito da ciclista eccetera, dici non sono soggetto a queste norme, poi ha chiesto ai poliziotti di identificarsi loro. Cioè lui ma gli cosa dato... gli fai a uno così? A uno così cosa l'etilometro, gli fai l'etilometro, è evidente. Ma lo denunci anche, immagino. Si chiama Brazzo di cognome, tra l'altro, Brazzo. Aie aie. Qualcuno di voi due si può identificare per piacere? Matricola o nome? Se, altrimenti mi ridate il documento, perché con gli sconosciuti non parlo e le divise non le conosco. Per piacere, avete l'obbligo, se siete pubblici ufficiali, avete l'obbligo di identificarvi. La cosa stupenda è che voleva io con gli sconosciuti non parlo, questi con la macchina, ma con tutto polizia. Quello che hanno da fare questi qui, tutto ragazzi, quello che hanno da fare, questo è veramente il top, il signor Brazzo. Non ho l'obbligo né di residenza né di codice fiscale, sono soggetto di diritto internazionale. Sono io, sono legale rappresentante, sono un legale. Secondo l'articolo 1 e 16 della legge 881 del 77, secondo la legge 445 del 2000. Sì, ho la personalità giuridica, la qualità per difendermi da solo. Beh, dà letteralmente i numeri. Il decreto è stato fatto per la salute pubblica dei cittadini amministrati dello Stato italiano. è chiaro che anche il soggetto di diritto internazionale può essere un pericolo, ma se lui dà il consenso, siccome questo decreto è ingiustificato completamente, perché ho verificato i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che dicono che l'anno scorso l'epidemia era più grossa, allora io non posso ammettere a una bufala, anche se è un decreto, e come soggetto posso oppormi. No, su questo dice un po' le cose che dici tu, sul fatto che i numeri, sono più grandi. Certo. Aspetta. È uguale. Se voi procedete pure, chiaramente vi avverto, seguirò abuso di potere, sequestro di persona, sequestro di persona perché non è giustificato. Lei non ha un documento, primo. Il documento, se lo rifiuta, lei viola l'articolo 74 della legge 445 del 2000. Si legga bene l'articolo 74, la legge, io parlo in virtù delle leggi, non per le mie opinioni. Cioè, il bello è che questo rispondeva ai poliziotti citando leggi. Questi dicevano: scusi, ma mi può dare un documento? Dando numeri. C'è i numeri. No, ma c'è un'ordinanza. L'ordinanza io non la riconosco perché è una bufala, perché alcuni scienziati, la scienza dice che è come un'influenza. Siccome da verifiche scientifiche questa ordinanza è ingiustificata, io non do il consenso all'applicazione di questa, perché sennò calpesta i miei diritti di circolazione, di lavoro e tutto il resto. Questo è il motivo. Inoltre, quindi, se il suo collega mi ha fermato, è perché penso che applichi l'articolo 4 del TULPS, che cioè io sarei soggetto pericoloso, se no non può portarmi via. Soggetto pericoloso, non sono pregiudicato, non ho armi, però potrei essere contagioso. Se voi lo verificate, sono pericoloso e potete portarmi via. Ragazzi, questo è il numero uno, va chiamato. Si chiama Marco Modesto Brazzo, di Rovereto. È uno studio. Aieie Brazzo. Uno studio di kinesiologia, non so che cazzo è, un osteopata. Pronto? Parla. Sì, buonasera, signor Brazzo? Sì. Salve, chiamo da Radio 24, mi chiamo Cruciani. Mi dica. Come sta, innanzitutto? Bene, perché da parte di insulti e il fango di giornalisti, le forze dell'ordine mi stanno rispettando. Io continuo a uscire e mi hanno già fermato 4 o 5 pattuglie, sì, e non si sono assolutamente né accaniti né vendicati, perché sono tutti al corrente di questo video, sì, ma ha riconosciuto lei quello del video, e non hanno fatto nessun'altra azione. Ma chi è che la sta insultando? Chi è che la sta insultando? Scusa. Tramite tutti quelli che commentano il video. Volevo capire una cosa: lei praticamente è stato fermato, se non sbaglio, sì, ed ha detto agli agenti che lei è una persona umana soggetta al diritto internazionale, giusto? Sì. In Italia esistono, cioè in Italia, nel nostro diritto esistono le persone fisiche, che sono tutte le persone che nascono alla nascita, sì, vengono con l'atto di nascita messe sotto un trust dello Stato, cioè diventano, e è una buona cosa, perché in teoria lo Stato, che è grosso, dovrebbe, sì, difendere i suoi cittadini. E lei invece? Quando una persona si accorge che lo Stato, invece che amministrarti per il tuo benessere, sì, come questo decreto, ma qui non entriamo in merito, sì, o per altre cose, allora c'è la possibilità, grazie alla legge italiana, quindi ci sono delle leggi meravigliose, di, con l'autocertificazione, autodeterminarsi e uscire dal sistema di diritto positivo, quindi si diventa soggetti al diritto internazionale, non si è anarchici, e il diritto internazionale per l'articolo 10 della Costituzione è superiore al diritto positivo. Però scusi, in questo modo uno può fare il cazzo che vuole sempre. Praticamente sì, lei le tasse le paga, per esempio? Allora, le tasse, tutti pagano le tasse, io quando compro da mangiare, quando pago la luce, le tasse le pagano tutti, non esiste evasore totale. La persona basta che faccia benzina, compri, io quelle tasse le pago tutte. Dirette, io, aspetta. Tasse dirette. Allora, le tasse dirette che sono sul reddito, io appena nel 2016 ho cambiato status giuridico, ho comunicato immediatamente alla Agenzia delle Entrate dicendo: per piacere chiamatevi, concordiamo la contribuzione, non che non la voglio pagare, non è il caso che vuole. Scusi, ma se ognuno facesse così, se ognuno potesse concordare la contribuzione, sarebbe la fine. Cioè, sarebbe... per questo motivo che lo Stato deve rivedere. Se lo Stato, io non avrei mai protestato se mi prendessero un quarto del reddito. Ho capito, però sarebbe facile, tutti, sarebbe straordinario. Lei ha parlato prima di autocertificazione, no? Lei ha parlato di autocertificazione. Perché non autocertifica che è un coglione? Non se l'autocertifica proprio. Se l'autocertifica. No, è Parenzo, ma lasci perdere. Lasci perdere. Buonasera. Lasci perdere. L'autocertificazione si fa in base alle leggi che prevedono che tu puoi diventare tu legale rappresentante e iniziare a esercitare e tenere i diritti che non mi Però scusi, non mi sono inventato le leggi. Lei non riconosce la validità di questo decreto, dunque lei ritiene di poter uscire quando... Non do il consenso. Dunque lei se può uscire quando vuole, secondo questa interpretazione. Ma secondo me l'anno... Ma credo bene. Io l'anno scorso non mi ha fermato nessuno. No, l'anno scorso era un'altra situazione, però. L'anno scorso cosa c'era? Come un'altra situazione? Ma si informi. Sono 20.000 morti l'anno scorso, secondo le storie, e 8 milioni di contagiati. L'influenza, dice lei, l'influenza. Un'influenza banale perché non supera... Mi sembra che mi ha scritto che ma sono 8 milioni di contagiati. Ma gli si può fare un trattamento sanitario obbligatorio in questo caso? Sono 10.000 contagiati quest'anno, 10.000. Però scusi, se il governo... Aspetta un attimo, io voglio sentire invece, sono curioso. Brazzo, scusi un attimo, se lo Stato ci dice che dobbiamo restare a casa per non contagiare, per non ampliare il contagio, lei esce e tecnicamente commette un reato. Ok, però allora attenzione, io quando hanno fatto le leggi razziali, le poche persone che si sono opposte al decreto di Mussolini sono finite in galera o morte perché li avevano convinti che l'ebreo faceva schifo. Io rispetto le leggi, se vanno per il benessere collettivo, questa legge, caro mio, questa, questa influenza diventerà gravissima, sapete perché? Perché la gente, se l'anno scorso io dicevo alle persone che l'influenza dell'anno scorso era mortale e se andava in rianimazione, l'anno scorso sono stati 16 milioni contagiati, vedrete che male che andrà. Cioè, secondo lei è la comunicazione, con la paura, cioè, che lo Stato, la paura produce i contagiati. La paura produce... Lei chiedati gli altri medici cosa fa la paura nella persona. Quando una paura la persona sta chiusa, cioè uno si ammala per la paura, muore, si ammala per la paura. Polmonite, broncopolmonite, tutti quanti verranno completamente, vedrete. Comunque, torniamo al punto. Lei a un certo punto ha chiesto l'identificazione ai poliziotti, il che è stato un momento quando la persona ti ferma. Per legge si devono identificare. Sì, ho capito, ma quelli erano poliziotti di questo Stato. Ma chi l'ha detto? Erano in divisa. Ma la divisa? Ma intanto io non so se può essere un agente privato oppure non sei in servizio. Ma è finito Carnevale. Loro sono obbligati. C'avevano una macchina. Lei mi sta contestando. Vai. Ma guardi che gli ultimi quattro, come ha fermato oggi, ci sono tutti identificati, caro mio. Scuotendo la testa. Però scusi un attimo. Scusi un attimo, lei non ha... Io non do dati personali a nessuno. E una volta che sono identificati, io gli dico tutto quello che vogliono. Scusi, tutto. Lei che documenti ha in mano? Non c'ha la carta d'identità? No, io non sono più cittadino, io sono di nazionalità italica, io ho un documento previsto dalla legge 445. E se cioè lei non ha né passaporto né carta d'identità? No, sì, aspetta, le ho come soggetto giuridico, ma non le uso. Non le usa. È che smetto di essere soggetto giuridico, io con questa procedura legale mi sono sdoppiato, esiste il soggetto giuridico, sdoppiato è vero. Adesso lei sa che la denuncia che mi hanno fatto, l'avvocato sono io, perché se denunciano un soggetto giuridico io sono legale rappresentante, se lei si è sdoppiato posso parlare con quello sano, visto che stiamo parlando col coglione. Se lei si è sdoppiato posso parlare con quello sano, perché mi pare che il coglione... No, io torno a fare non il coglione, ma quando lo Stato farà delle leggi per il benessere comune. Perché dovrebbero ricoverarle in rianimazione, visto che lei non paga le tasse? No, calmo. Allora, la legge 881, leggetevela, il diritto alla salute per se ti ammali, dove cazzo vai? Scusami, se ti ammali, dove cazzo vai? Spiegami, se ti ammali. Ho il diritto alla salute secondo la 881. Ma ho capito, ma se vuoi trattare ogni anno col fisco quanto si paga di tasse? Io vado in ospedale e non pago il ticket, perché è un abuso. Pure, non paghi manco il ticket. Diritto alla salute, c'è scritto, non ho detto mica io. Tu continuerai a uscire. Io sto continuando a uscire, mi hanno fermato anche oggi i carabinieri e mi hanno lasciato proseguire. Ma questo tu rischi la galera, tu rischi la galera. Loro meglio di voi giornalisti, loro sanno i miei diritti. Ma non sanno i tuoi diritti, che ormai non ne possono più, non ti possono arrestare. E ti vuoi rimanere schiavo senza diritti, rimani schiavo. Si sottoponga al tampone almeno, ma stiamo scherzando, lei è un pericolo vivente. In tutti i casi, se voi studiate microbiologia, voi allora vedete quelli che mettono le mascherine, a cosa servono? Ditemi, dai, vi dico se voi... Ma quello è un altro, visto che gira come un cretino per le città, almeno se faccia il tampone. Quanti virus passano? La mascherina, la grandezza di un virus, della mascherina se ne fa un baffo, entra e esce come vuole. Ma questo è un altro discorso, scusa un attimo. Per dire che voi date un coglione a me che vado in giro a contagiare, il virus... No, può essere. Anche se tu rimani a casa, porca miseria. Scusami, Brazzo, scusa, tu lo riconosci il Presidente della Repubblica? Questo Presidente della Repubblica no, è illegittimo. È illegittimo, questo è il presidente stato dichiarato illegittimo. Da chi è stato dichiarato illegittimo? Chi? Ma chi? Ma come? Il Parlamento non è stato eletto, è stato fatto sporta una denuncia anche dal generale lì di Carabinieri. Pappalardo, sì, lo so, chi è il generale? Mamma mia, non è mica, sono mica l'unico. Un manicomio di ma poi io, a me non mi interessa se Mattarella è legittimo o no. No, ma lo riconosci, lo deve concordare con me. Ma cosa deve concordare con te? Cosa dice? Cosa deve concordare? Io parlo secondo la legge. Ciao, ciao, ciao. Buon ciao, lavoro, ciao. Grazie. Ciao. Ecco, forse questo qua in Cina non credo sarebbe sopravvissuto a lungo, questo signore qui. Questo signore qui, no. Cioè, credo che in Cina, cioè, gli avrebbero già sparato da tempo, l'avrebbero preso e portato in galera. Ora tu dici, no, esistono i matti, e questo qua oggettivamente è un matto. No, no, ma questo è chiaramente un matto. Però ti leggo una cosa: governo italiano, presidenza del Consiglio dei Ministri. Si può uscire per fare una passeggiata? Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità, ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Cioè, tu capisci, no? Cioè, o tu impedisci queste robe qui in maniera draconiana, oppure non ti possono fare un cazzo. Cioè, vai a passeggiare, come io ho visto ieri tanta gente, vai a passeggiare, stai dicendo che stai facendo, dici che stai facendo attività motoria all'aperto, passeggiando tranquillamente, in due, naturalmente, se vivono insieme, ma anche se fossero quattro. Sì, certo, poi c'è scritto, cioè, distanziati, qual è il problema? Se tu lasci aperti questi varchi, è la fine, ma è evidente che è così, cioè, no, ma è assolutamente chiaro che è così. Invece... nel buon senso, nell'applicazione delle norme, no, anche nel rispetto, no, delle norme, sempre demandare tutto alla politica. L'esercito. Te l'hanno detto come fa? Ecco, è arrivato il catastrofismo. Ma certo, basterebbe avere un l'esercito. Minimo di senso civico, di senso Aridaglia, delle cose. Io così a fine anno non ci arrivo. Io così a fine anno non ci arrivo. La zanzara. Capisco tutto, ragazzi. Ma ci avete rotto il cazzo questo coronavirus. Lo sentiamo tutto il giorno, ininterrottamente. Dateci tregua almeno voi, cioè. Lo dico io, parla di figa, cazzo. Ciao, qua bisogna ringraziare Pornhub, cazzo, un mese di premium gratis, un altro mondo. La mattina Pippe e la sera Zanzara. La mattina Pippe e Zanzara. Pippe e Zanzara, Zanzara e Pippe. Bellissimo, bellissimo. Allora, vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta tanta tanta paura? Alexa, io esco. Ma allora non hai capito una sega nulla. Non lo sai che fuori c'è il coronavirus? Cosa? Barisoni gay. Quando? Davide da Bisceglie, avanti tutta. Davide da Bisceglie, eccomi qua, da Bisceglie. Eccomi qua, mi ascoltate? Comunque eccomi c'è qua. Anche il caso di un commercialista ligure, arrivo subito Davide, che ha fatto un tweet sui social, ha postato una roba in cui oltre a Conte dimetti ti ha aggiunto e stai a casa, rivolto evidentemente a Conte, perché se ti incontro e ti avvicini a meno di un metro ti sparo per legittima difesa. Mamma mia. Questo signore, che è un commercialista, tra l'altro, dovrebbe sparare agli evasori. No, ma ha messo una foto ha postato una foto con la pistola, evidentemente una pistola giocattolo, dentro, capito, nei pantaloni. Vabbè, Davide, dimmi. Allora, l'hanno identificato, denunciato. Coprite un focolaio in Lombardia e non recintate tutta la zona, devi mettere i militari. Ma guarda che l'errore, di non fare Bergamo o comunque alcune zone della Lombardia dopo Lodi, zone rosse, mi sembra che sia stato riconosciuto. Beh, tutta ormai zona praticamente rossa Italia alla fine. No, ma che tutta l'Italia ha le stesse regole alla fine. Sembra fatta apposta. A me sembra si parla, David, si parla in queste ore del perché non hanno fatto zona rossa subito alcuni comuni vicino perché a Bergamo. Certo Bergamo hanno deciso di farlo, è di estendere quei provvedimenti è stato a tutta l'Italia. Ma no, ma non forse è la stessa cosa. In Veneto, avevano chiuso un focolaio così. Per seguire l'errore, demandate tutto al senso civico. Ma chi se ne frega del senso civico? Io esco. In che senso? I carabati, come ha chiesto la mia provincia. La mia provincia ha chiesto i carabati, perché la gente è tutta in giro, giustamente. Chi più, chi meno, un sotterfugio li troviamo. Perché ne devo stare a casa? Che sono un renegato, che ho fatto di male, che sono un criminale. Ma perché tu fai un danno a te stesso e ai tuoi parenti? Perché tu esci, però. Non ho capito. Ma guarda che non è che fai un regalo a noi, fai un danno a te stesso e ai tuoi parenti. Ma Parenzo, ma che cavolo stai a dire? Ma non hai capito che ci stanno a prendere un esperimento sociale questo, per vedere come reagisce la popolazione italiana. Vediamo. No, no, ma aspetta, voglio capire una cosa. Allora, Davide, tu esci o no? Esci tranquillamente e te ne sbatti i coglioni? Sì, esco come sbatti, senza mascherina e senza niente, che tanto non serve a niente la mascherina, passa per via epidermica, via oculare, con una scorreggia ti fai indettare. Di che stiamo parlando? Scusa, non ho capito, Davide, tu esci a fare cosa? Io esco, vado in giro, vado a fare la spesa, vado a fare le mie fotocopie, vado a fare i fatti miei. Se mi fermano, pazienza. Fotocopie, fotocopie fai? Ma dove? Che è tutto chiuso. Che fotocopie fai? Pirla. Stanno aperti. Se c'è la scuola telematica, visto che insistono, la scuola telematica, il telelavoro, e non si torna più indietro. Sono 3 giorni che ha fermato sta roba. Non si torna più indietro, anche sulla vostra radio. Insistono con la scuola. Insistono con la scuola. Non ho capito una cosa. Non ci siano più persone. Ma non ho capito. Lavoro che sono precettato a lavoro. Torno da lavorare, devo fare il professore di 10 materie. E il professore sta a casa a godersi lo stipendio a schiacciare un bottone. Oh. Io faccio geografia, matematica. Ma quale godersi lo stipendio? Ma che dici? Gli insegnanti dei miei figli mandano ogni giorno lezioni e compiti. Ma che dici? Che fai di professione, Davide? Dimmi. Non te lo potrei manco dire. Vabbè. Perché sennò domani mattina mi ci si inculano. Non ho capito. Tu esci da casa per fare i cazzi tuoi come vuoi, come e quando vuoi. Sì, e non sono l'unico. Quindi tu lavori nello Stato, secondo me. Ma che me. Fai concretamente? Tu lavori nello Stato. Concretamente, che fai? Quando esci, che fai? Che faccio? Che devo fare? Devo andare a... Io c'ho un cantiere aperto. C'ho una casa che mi sto costruendo da 6 anni, da solo. Ho fatto un recupero incredibile. E mi tocca andare come un clandestino in giro. Qua siamo come i clandestini, come i criminali. E dai, i criminali però godono, perché non ci sono le fabbriche. Ma è per tutelare la salute tua e dei tuoi parenti. Questo è il punto, per la salute tua e dei tuoi parenti. Metti i cararmati, metti i militari. Ma chi incontri? Chi incontri? Chi incontri quando esci? C'è gente in giro, vanno in giro. C'è gente, nessuno li ferma, perché sono troppi. E che fa? Che fa? Ma che fa questa gente? Che fa questa gente concretamente? Cazzeggia, vanno tutti in giro, è una presa per il culo, dai, poi tutto pubblicità. Se lei vivesse a Bergamo non cazzeggerebbe così. Se lei vivesse a Bergamo non parlerebbe in questo modo e quindi è un coglione. Sono un coglione. Io sono un coglione. Sì, perché lei non, fino a quando non ti arriva, e mi auguro che non arrivi al sud come è arrivata a Bergamo, non te ne rendi conto. Invece dovremmo far tesoro di quello che è accaduto e prendere i provvedimenti. Ora lei va in giro a fare le sue passeggiate, la polizia ci vuole, il carabinieri allora, ci vuole. Non ti basta guardare quello che c'è alla televisione a Bergamo, imbecille cretino, cornuto d'un cornuto. Mi manda in trasferta a 300 chilometri. Ma non più, ma che c'è... adesso no, adesso non ti manda a 300 km. Dai, no, ti... mi va, ci manda in trasferta, ci mandano fuori perché il servizio deve essere garantito. Si vede che lei fa l'autotrasportatore. Beh, certo, si vede che lei fa l'autotrasportatore, allora ci va per lavoro. Non è che se ne va a fare la passeggiata. Il servizio deve essere garantito. No, tu ma allora scusi, non è che lei va a fare l'autista. Però chiariamo un punto: lei non è che va a fare la passeggiata fuori, lei per lavoro, giustamente, essendo il suo un servizio essenziale, lei lavora. Non è che va a fare la passeggiata. Io mi sono arrabbiato perché l'ha detto, io vado a fare la passeggiata. No, ma anche a fare la passeggiata, ha detto, dice che incontra, vado, vede. Anche a fargli la passeggiata, ma la vado a fare. Quando mi fermeranno pagherò i 250 euro, tanto già ne hanno fatti 7.000, per 250 si sono fregati 1.750.000. E allora è un cretino euro. Sta a fare cassa, ci sta schierando e sta facendo cassa. Quello ma quale cassa? Lei dovrebbe vedere, lei se vivesse a, se lei vivesse a Bergamo non direbbe ste stronzate, questo è il punto. Davide, non ho capito. Tu quando non lavori e quando non fai un servizio essenziale o non fai un lavoro per cui, che è autorizzato con il foglio, il cazzo che è, dovresti stare tumulato in casa. Tumulato in casa, il termine giusto, tumulato. Mi sembra giusto. Ma se non vuoi le persone in casa. Ma se non vuoi stare con tua moglie, che cazzo? Ma come ti sembra giusto? È un provvedimento necessario per non far allargare il contagio. Davide, ma piuttosto che tumulato al cimitero, meglio tumulato in casa. Cosa dice? Evidentemente a Bisceglie. Mi sembra tutto un paradosso. A me sembra. Ma perché tutto ancora non ti è arrivato addosso sta roba? Quanti contagiati ci sono a Bisceglie? Vai a Bergamo. Vai a vedere a Bergamo cosa succede. Zero. Ma non c'entra un cazzo. Ma non c'entra. gente che in Puglia. Chi è morto in Puglia? Tre persone. Ma cosa c'entra? Sì, ma se fate Davide, le do un dato. Non è terrorismo. Davide, do un dato a lei che non capirà un cazzo, ma almeno ai suoi conterranei. In Puglia ci sono 80 posti in terapia intensiva. Ne avete pochissimi. Se tutti ragionano come lei, quando arrivano i contatti. Meno male che anche Gottardo ha cambiato opinione. Okay. Meno male. No, non è che ho cambiato opinione. Meno male. Vabbè, tu sarebbe bene. In particolare, hai cambiato. Meno male. Fammi sentire. Almeno. Io ho la mia stima. Per le altre cose che hai detto, non ce l'hai proprio perché sei come parente. Sei un servo del almeno, padrone. Almeno. No, guarda, la potrei querelare per sei come parente. Il signor Walter Ricciardi, il nuovo mito. Il nuovo mito. I virologi sono i nuovi miti. Fammi capire, fino a un anno fa diceva no, l'influenza ammazza tutto, le infezioni da ospedale. Senta, vada a Bergamo, vada a vedere a Bergamo com'è la situazione, vada lì, vada a Bergamo, cambia opinione, va? Davide, io non ho capito una cosa. Davide, perché esci tranquillamente tu? Non ho capito questo. Perché esci tranquillamente? Perché ti rompe i coglioni stare a casa? Perché tua moglie ti sta sulle balle? Perché non la vuoi vedere? Perché non riesci a stare sul divano insieme a te? C'ho da fare i miei servizi, c'ho da fare le mie cose. Che ti devo dire? Ma che devi fare? C'ho da fare. Ma che c'hai da... Se non vado ogni giorno al cantiere che ho, non troverò più niente domani. Ma pensi, ma quella volta che la intubano, ci sta lontano da un pezzo dal suo cantiere. Ma tu di hai merda, detto sai? Che esci anche per fare i cazzi tuoi, per incontrare la gente così? Per fare fotocopie. Non esci per incontrare la gente, però una passeggiata è consentita, parla. Oppure dobbiamo stare radicati in casa. Sai che su questa cosa qua, no, anche se tu dici, mettiti le scarpe da ginnastica, mettiti un paio di scarpe da ginnastica, qualunque, dici che, e puoi dire tranquillamente che sto facendo una passeggiata sport all'aperto, perché è consentito. Fottili così, dai Davide, fottili così. Ma la micro passeggiata la puoi questa. Fare, nessuno ha detto mai il contrario di questa cosa. Ma non anche... nessuno ha detto mai il contrario, parente. Che qua ma perché non ascoltate... State a casa tutto il giorno, ma perché non guardate almeno la protezione alle 18 Davide, quello che ciao, dice la conferenza ciao, stampa Davide. Della protezione civile? Ciao, su tutti i giornali. Ok, incredibile. Più spieghi le cose a Parenzo, che questa norma qui è chiaramente vaga, e più ripete le stesse cose. C'era 18 nella conferenza. Ma le ripeto stampa. Perché non avete capito. Ma non un è cazzo, così. Ti ho letto una roba. Giorni e giorni che ti ho letto una roba cosa, del Ministero degli Interni. Sì, ma poi conta quello che ripetono tutti, ogni, ragazzi. Giorno. Sì, vabbè. Ogni giorno. Fermi ogni giorno. Fermi tutti, ragazzi. Fermi tutti. In collegamento da Roma, io, sì. In collegamento da Roma, la mitologica Jessica Rizzo. Buonasera, Jessica. Ciao a tutti, e anche io la purtroppo sono a casa. Come stai? Come hai dovuto chiudere il tuo club? Il tuo club? Per forza, anzi, le coppie scambiste stanno nel pallone. Mi sembra di essere il telefono amico. Devo dispendiare un po' di consigli in base al, poi al tipo di coppia che incontro, perché c'è per esempio la coppia voyeur, allora giustamente che cosa si inventano? Sono coppie che sono abituate a fare orge con altre coppie, con tanti singoli, esatto, e stanno nel pallone, però devono stare a casa, perché giustamente noi dobbiamo stare a casa. Certo, allora Jessica Rizzo, come sapete, è stata una famosissima pornatrice, produttrice di film, eccetera eccetera, e poi ha sarà in pensione adesso. Ma sì, pensione. No, basta. Nel 2006 io ho smesso il 250esimo film e poi ho detto basta. Ha smesso. Ha aperto 400, poi da qualche anno un club per scambisti, chiamiamolo così, che si chiama Il Mondo di Atlanti, se ho sbaglio. Sì. Dove una volta Atlanti, addirittura Rocco disse che andò Ronaldo, Cristiano Ronaldo una volta. Dice io, vabbè, io non posso fare nomi. Tu non puoi dire. Ci sono ogni tanto però, dei personaggi che vengono a trovarci, però io non posso fare allora, nomi. Il segreto professionale. Ovviamente in questo periodo è chiuso. Sì, certo. Come tutti. E sta dicendo una cosa, tutti. Che le coppie scambiste sono impazzite. Cioè quelle sì, le coppie sono impazzite. Sì, perché oggettivamente diversi, le coppie scambiste, sì. Le coppie scambiste amano chiaramente il sesso con più persone, come plurimo, il certo, sesso plurimo, il sesso di gruppo, persone. Il sesso di gruppo. Allora ci sono varie coppie, varie tipologie di coppie, c'è la tipologia della coppia dove il marito è voyeur, cioè e questi come fanno? E allora gli ho suggerito di fare il gioco della finestra. Cioè? Allora la moglie, così. Ecco, fa lo striptease sulla finestra con la tenda semiaperta. Sì. quella che siamo scemi. Poi si eccita al pensiero che gli altri la stanno guardando. Questo è ottimo. Un po' di coppie scambiste sostanzialmente ti chiamano e ti chiedono come cazzo facciamo adesso. Come facciamo? Sì, sono diventata il telefono amico per le coppie scambiste. Allora, per esempio, un'altra cosa, per esempio, la coppia invece quella più carnale, gli ho suggerito di fare il sexy food, cioè di preparare un cibo afrodisiaco e poi il marito la mangia sul corpo della moglie nuda. Ma questa è roba vecchia, cioè questa come fanno le coppie a incontrarsi tra di loro? Cioè gli scambisti, quelli che vogliono fare sesso di gruppo, le orge, come cazzo fanno adesso? Solo con internet, oppure non so, il gioco, oppure devono adottare un po' di fantasia, perché io capisco che andare sempre con la moglie dopo 20 anni, 30 anni, oppure vedere ed eccitarsi che la propria moglie fa le orge con tanti uomini e poi trovarsi da solo io e te, infatti mi dicono che non si tromba più qua, perché comunque cioè le coppie che ti chiamano dicono no, qui non si tromba sostanzialmente, non certo, si tromba, perché che non sono più abituate a fantasie più particolari, no? Senti, quindi... ma tu le aiuti un po' anche sessualmente al telefono oppure non hai questo ruolo? Sì, oppure gli dico anche di fare per esempio il gioco della telefonata separata, no? Il marito in una stanza, la moglie nell'altra. Buono e poi questo. Con dei giochi, con delle fantasie, la moglie gli fa credere al marito che sta facendo di tutto con tutti. Anche questa potrebbe essere una cosa. Ma che follia è? Ma scusa, ma se la gente non è più di aprire un libro, ma leggere un libro non gli capita di non leggere il Marchese de Sade, per esempio, o altri racconti? Sì, potrebbe essere un'idea. Ah no, ma ragazzi, ma il punto fondamentale è uno, Jessica lo sa bene, quando la gente è abituata da anni a incontrarsi nel suo club o in altri club o a casa o dove cazzo vogliono loro attraverso i siti eccetera, poi a un certo punto quando dici a queste persone voi non potete più uscire da casa, beh, è un dramma assoluto anche dal punto di vista psicologico, cioè le coppie abituate a incontrare altre coppie, a scopare con altre persone eccetera eccetera, se poi non trovano più materiale, non lo possono trovare, anzi non è che non lo trovano, lo trovano ma non possono incontrare, che cosa ti raccontano, cosa ti dicono al telefono queste persone? Che purtroppo stanno in astinenza, perché comunque i propri compagni si eccitano ormai da anni con determinate fantasie che adesso non possono, perché l'amore di non possono fare del sexting, delle dirette Facebook, per esempio ho visto delle coppie che fanno delle dirette Facebook un po' per passare il tempo. Ma tu li fai eccitare o no? Tu li fai eccitare, contribuisci o no? Cioè fai un po' di sesso? Io certo, a volte faccio la regista al telefono, per esempio c'era una coppia che amava, invece avevano molto paura e volevano mantenere la distanza di sicurezza e allora gli ho detto guarda, se devi mantenere la distanza di sicurezza puoi fare solo il gioco del fisting. Ah, il gioco del pissing, dici? Sì. Alcuni giochi purtroppo bisogna inventarsi dei giochi diversi, oppure per le coppie di sex, un'altra coppia di sex ha detto vabbè, tu vestiti da donna all'uomo e la donna si veste da uomo e così c'è uno scambio di ruoli. Sì, ma no, purtroppo bisogna mettere un po' di fantasia. Lo so, infatti per un certo mondo, per un certo mondo, cara Jessica, è un casino, un disastro per un certo mondo. Possono fare solo ho tante chiamate tutti i giorni che si stanno annoiando e non sanno cosa fare. Lo so, ma io tu avevo anzi quasi pensato di aprire il club con le bambole gonfiabili. In pratica infila uno per volta. No, ma dovresti fare una specie di cosa online in cui le coppie scopano online e basta, cioè scopano guardandosi virtualmente e basta, cioè ne fai mettere qua, ma lo possono fare anche tra di loro, anzi sicuramente molte lo fanno già. Io voglio capire una cosa, ma tu per esempio non partecipi telefonicamente, cioè non è che io facevo anche la regia nei miei film, no, ma adesso qualche coppia ti chiama magari per farsi dire delle zozzerie da te oppure per farsi dire delle robe da te. No, lo faccio perché mi diverte. E come fai, per esempio? Molto. Ti chiama coppie di che tipo? Cioè, tipo del. Allora magari non so, che lui si eccita, che magari la moglie sta con più uomini, allora io gli dico sì, dai, mettila così, fagli questo, fagli l'altro. Cioè, cerco insomma di incentivare le coppie, di far eccitare. Vabbè, ragazzi, questo il compagno incentiva. E la compagna. Ma certo, vabbè, Jessica, ti abbraccio. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Un ciao. La depressione, la depressione delle coppie scambiste. One Express, il pallet espresso. Vi presenta la zanzara. Abbiamo detto che si sta facendo un tentativo estremo per bloccare la diffusione a macchia d'olio del contagio. Le norme prevedono che si possono tenere aperti questi locali se ci sono clienti seduti al tavolo e a una distanza di un metro. Nella serata di ieri, nella nottata di ieri, i baretti della zona della Movida a Napoli e in tanti centri storici dei diversi comuni della regione erano gremiti di ragazze e ragazzi uno sull'altro. Bene, ai gestori di questi bar vorrei dire: ma è mai possibile che voi, per guadagnare 100 euro in più, dovete correre il rischio di perdere 10.000 euro fra due settimane? Bene. A Napoli! Ma che c'è da mi sente il cervello? Facciamo capire. Che vado mi sente il cervello? Forse un attimo mi vado a stare a casa. Dovete stare a casa e ti spacci, ma non capito! Ad a stare a casa! A che cazzo? Ma non capito! Cos'è che dice? Dobbiamo stare a casa? Oggi guarda il TG, ho visto la Calabria con soli 66 casi, no 10-15.000 come la Lombardia eccetera, mette l'esercito per le strade. Mi madre ancora che mi dice no, ma basterebbe il buon senso. Ma quale buon senso? Esercito! Che cazzo da fare? L'italiano il buon senso non ce l'ha. O lo minacci coi mitra per le strade o lui esce e se ne fotte. Volete sapere l'ultima dalla bassa lodigiana? Qua la guardia di finanza ferma i trattori che vanno nei campi a lavorare e gli dà la multa. I trattori dei padroni terrieri che vanno nei campi a lavorare per i cazzi loro. Cioè, non riguarda dicono solo quelle cose che riguardano direttamente gli animali. C'ha la stalla con le mucche per fare il latte, deve dargli da mangiare, gli dà l'erba dei campi, non gli fanno andare a lavorare i ragazzi che devono tagliare l'erba e li multano. Incredibile, vogliono fermare anche l'agricoltura. Comunque dopo ti chiamo, la corte. Non so perché si rivolge al signor la corte. Comunque ragazzi, lo stesso Macron che la settimana scorsa era andato a dire viva i teatri, no? I francesi devono uscire, eccetera eccetera, no? Andando a teatro, ti ricordi Davide, no? Lo stesso Macron adesso dice siamo in guerra e serve l'unità nazionale. Poi da domani parte il confinamento, che è praticamente quello che abbiamo fatto noi, bisognerà uscire solamente per fare la spesa, motivi sanitari, andare al lavoro, un po' di attività fisica ma senza incontrarsi con altri, esattamente quello che facciamo noi, no? Da domani esatto. Poi le frontiere saranno chiuse, ma è lo stesso Macron che la settimana scorsa andava a teatro, ma noi abbiamo passato la stessa cosa, abbiamo visto l'aperitivo di Sala e di Conte e ho capito prima. Ma perché sono affidabili questi qua? Perché non impariamo mai, perché è così purtroppo, non è che è colpa di qualcuno. Tra l'altro hanno rinviato il secondo turno delle elezioni, intanto. Nello stesso uno tempo pensa hanno sempre che tocchi agli altri, no? Anche quando sei vicino, anche qua a Roma si diceva vabbè, ma riguarda Milano, riguarda la Lombardia, ma figurati, è sempre così. Carlo, questo provincia di Lecco, vai. Carlo, provincia di Lecco. Ciao, mi sentite? Dimmi. Ciao. Niente, allora io ho sentito alcuni, faccio fatica a seguirvi perché sono tappato in casa con tre bambine che fanno casino. Ho sentito un po' gli interventi che mi hanno preceduto, qualcuno minimizza, qualcuno si sbatte le palle di questa roba, vanno in giro come fenomeni. Io vi dico che abito a 1 chilometro dalla provincia di Bergamo. Sì. E nei giorni scorsi è stata una roba da film, perché l'ospedale è a 500 metri da casa mia, che è provincia di Lecco, praticamente 24 ore al giorno noi nel silenzio più assoluto sentivamo solo ambulanze a raffica. Appunto, pazzesco. Sembra, ma ve lo dico, guarda, ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo. Sembra di essere in guerra. È una roba che gli altri non capiscono. Che sembra, è così. Mi auguro. Io mi auguro che siano pochi quei coglioni che stiano, che stanno minimizzando, che vanno in giro, che fanno i fenomeni, e che gli altri invece ascoltino bene quello che dicono le persone che stanno vivendo qua. Io ho almeno 3-4 persone morte attorno a casa mia nell'arco di 300-400 metri col coronavirus, no? Perché qua bisogna stare attenti se di coronavirus. Vabbè, dunque, o coronavirus. Non credo. Con chi ce l'hai? Con quelli che minimizzano, eccetera? No. Ma sì, assolutamente sì, sono dei pazzi furiosi scatenati, ma se tutti si stanno rimangiando le parole, stanno tutti prendendo visione di che cos'è, le potenzialità che ha questa roba qui. Ma non eravamo pronti, io posso capire che la gente non fosse pronta, nemmeno io lo ero. Ma qui noi viviamo col terrore, ma io mi auguro che il resto d'Italia, che è stato magari avvisato un pochino prima e che vede che cosa sta succedendo, prendano le misure, capiscano di che cosa stiamo parlando. Sì, ragazzi, forse non avete capito, ho visto delle immagini di Parigi prima con l'esercito schierato. Ora, se in Italia non si blinda tutto a livello di coprifuoco per 15 giorni, in cui c'è una regola ferrea, in altri paesi hanno fatto diversamente. In Corea del Sud, per esempio, con un sistema elettronico di tracciamento, eccetera, eccetera, sono riusciti a limitare. Anche qui, eh. Ma che controlli ci sono? Ma quattro controlli qui al centro della città, ma quali controlli? Ma vai al sud che nessuno viene fermato, ma anche al nord. Per carità, Christian da Bergamo, dai su, ma non, io non ho visto una, ieri ho fatto un giro eccetera, ho visto due pattuglie così a cazzo, Christian da Bergamo, comunque, senza mettere i militari per le strade, Christian. Basterebbe un minimo di senso mettendo civico. Mettendo i militari, ridaglie questo senso civico, Christian da Bergamo. Perché pensi che i cittadini siano stupidi? Perché però? La dimostrazione è quello che avviene, Christian da Bergamo, ti hanno chiamato pure io stasera. Io non ho mai pensato che la gente sia stupida. Ma no, la io gente non penso che sia stupida. La quota di idiotici, paura, questo è anche il tema, Christian da Bergamo. Scaccia la paura. Tu pensi purtroppo che bastino gli appelli di quattro stronzi su internet? Secondo te, Christian da Bergamo, una settimana, da 10 giorni si continua a dire cosa si deve fare. Christian. Poi lo scemo c'è sempre. Pronto? Dimmi, Christian, dimmi. Allora, io abito a Bergamo, sono in casa chiusa da 3 settimane, sento tutte queste persone che fanno cattiste, girano, fanno. Io ho una proposta: costituire un albo dei trasgressori coronavirus. Se ti ferma la polizia e non c'è la dichiarazione, ti metto in una lista e se nel caso rimani positivo, vai in coda agli altri. Perché se io mi ammalo e devo essere magari preceduto da questi qua che fanno un giro a catteggiare, voglio vedere cosa succede. Ma guarda che poi le sanzioni le hanno fatte. Vuoi la cifra di quante persone sono state sanzionate nel weekend in tutta Italia? Sai quante? Troppo poche. No, ma sempre di quelli che hanno preso, di quelli che hanno fermato. Poche. Ma sono, le sanzioni ci sono. Poche, certo che ci sono, ma poche. Ciao Christian. Chi viene preso non viene curato. Ma no, ma adesso non esageriamo. Dai, ciao, ciao Christian, ciao. Che è incredibile, per Parenzo va tutto bene, le autorità hanno fatto tutto no, bene, tutto perfetto, va tutto bene, tutto, sì, va ognuno tutto ha commesso bene. Degli errori, ragazzi, sempre filo tutti hanno commesso degli errori, ma ragazzi, ma ci vuole l'esercito, ci vuole l'esercito in strada, ero uno dei pochi a difendere Fontana, figurati, per i suoi provvedimenti, ci vuole l'esercito quindi figurati, per strada. Filo governativo di quale punto, governo? A questo punto quale? Ci vuole l'esercito per strada, l'esercito per strada, sì, di chi ha piano piano ha cambiato atteggiamento, può darsi, ma ci vuole l'esercito per strada. Certo, no, io sono convinto. Comunque, i carri armati per strada. Se basta tu rallentare il contagio, non occorre annullarlo, anzi annullarlo sarebbe dannoso. Questo secondo perché alcuni. Poi hai i contagi di rientro. Quindi in realtà bisognerebbe prenderlo un po' alla volta. Allora ragazzi, un ascoltatore mi ha mandato questa telefonata. Quindi che ha fatto ha cambiato opinione. Aspetta, un ascoltatore mi ha mandato una telefonata che ha fatto a una prostituta. Perché abbiamo sentito la settimana scorsa una prostituta che se ne fotteva un po' del coronavirus e prendeva le sue precauzioni col termoscanner. Se ne fotteva eccetera. Per forza, è una prostituta, se ne fotteva. Sì, per vabbè, forza. Se ne fotteva e fotteva e continuava a fottere. Questo qua invece ha chiamato una prostituta responsabile, la responsabilità delle prostitute. Pronto? Ciao tesoro, sono Gianni. Sei a Ciao. A Udine tu? Sì tesoro, però si inizia a lavorare dopo del 25, credo io, perché il governo ha messo quarantena. Ah, non lavori? Tesoro? Certo che no, come stai cercando tu ragazza, tesoro? Tesoro, te vado a dire, sei attento che Carabinieri ha, come sta bloccando tutto lo telefono, dove gli uomini chiamano, e se tu arrivi dove una ragazza, subito ti arriva Carabinieri, ti fanno la multa e credo che 3 mesi di galera, sei attento, ok? Ah, quindi ti dico perché è meglio non andare. Polate, tu non lo sai. No, no, tesoro, come mai vai a andare? Sei attento che Carabinieri sta gli hanno preso a, a due persone, non lo so se hai letto la notizia. Sì. Allora, sì, questo video, sei attento. È meglio che ci vediamo più meglio tardi. Sì, tesoro, più avanti, sì, credo che, avanti, non lo so se è fino al 25 o penso io fino al 3, non cerca nessuna donna, eh? Io ho solo telefonato, non mi succede niente, no? Per telefonare. Sì, però sei attento perché stanno prendendo numero tutto, stanno controllando tutto, Garanieri sta controllando tutto questo, il chi chiama a regazza per chiedere servizio, eh? Sì, sì, va bene, allora io rimango a casa dove sono. Sì, tesoro, per favore, perché così evita un problema con il governo, anche col governo. Stammi bene, va bene, ci sentiamo. Ok, un bacione. Con il virus non si può andare neanche con l'escort, c'è poco da fare. No, guarda, questo è lo primo che hanno proibito, Sì, perché tu sai che noi siamo qua lavorando, no? Arriva una sola persona. Sì, lo so. Arriva uno o altro. Se tu chiami un'altra ragazza, vero, e quella ragazza ti fa entrare, tu non sai se questa ragazza è malata, perché non sei vero, tu l'unico che fa entrare la ragazza. No, ma io sono un bravo ragazzo, figurati. Per quello, tesoro, devi stare attento. Faccio anche volontariato, solo che... per quello, tesoro, forse non lo sai. È un po' che non ho la ragazza, allora ho detto, vabbè, proviamo sul tuo sito. Quindi. Sì, tesoro, sì, ma se la legge, tempo, se no? La legge dice così, io rispetto la legge, ci vediamo dopo, dai. Sì, tesoro. Ciao, amore. Ciao. Baci, ciao, buona giornata. Ciao. La zanzara. Pronto? Guarda, ma vattene a piangule, guarda, a te grindri dici, tu vuoi le clandestine? C'è un po' di rabbia, va, però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanchè, si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè... Piuttosto che andare con lei farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè. Una vergogna! Una vergogna! Una vergogna! Grande Max! Grande Max! Ciao Rocco! E anche oggi i lavoratori necessari sono costretti a recarsi al lavoro. Anche oggi la fanteria deve andare al fronte, in guerra, ad ammalarsi. La fanteria pronta a morire, cazzo! Buongiorno, Mefra, e siamo a lunedì. Padre, figlio e Spirito Santo, comincia un'altra settimana. Giuseppe, caverà la guerra civile, la finisce. Attenta a me, Giuseppe. Comunque mi stanno divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. Allora, avrei tanti matti da farvi sentire, caro David. Abbiamo un medico di Venezia o di quelle parti, immagino, di Milano, un tale dell'Oliva che dice che l'epidemia è fasulla e mette in ginocchio l'economia, ma avremo modo nei prossimi giorni. È ritornato. Che metta in ginocchio l'economia è fattuale. Sì, questo è vero, però lui lo dice, cioè, come se fosse. Le borse? Sì, ma le borse? Come se uno potesse scegliere una strada diversa, però, questo signore dice. Ah, no, poi ce l'abbiamo già, ecco, il matto, ce l'abbiamo già, eccolo qui. Poi senti, dici, cosa poi dice? Per forza. Guarda i dati. Questo è buono. Ma lo sappiamo perfettamente, allora. Riguarderà tutto il mondo, no? Purtroppo. Poi c'è il mitologico Baldo Vaccaro. Il mitologico Baldo Vaccaro che è tornato all'assalto. una farsa mondiale, la paura che ammala, non il virus, più o meno quello che diceva il ciclista prima, eh? Cioè è la paura e non il virus. E poi c'è Pappalardo, ragazzi, Pappalardo, però ve lo devo far sentire per forza Pappalardo, perché non è possibile che non vi faccio sentire Pappalardo, dai. Ha ragione Salvatore Raino, che urla che tutta la sua rabbia e dice attenzione, attenzione, non tutti muoiono di coronavirus, sempre che questa epidemia ci sia realmente, ma si muore anche perché si assumono troppi medicinali, troppi farmaci come l'aspirina, gli C, che alla fine fanno più male del coronavirus. Ma per non favore, è ma non fa nulla la BVC e l'aspirina. Folle. Ma che no, cazzo fa male dici? Non prendere le pastiglie. Pappalardo. È da denuncia, però, è da denuncia, dai. Questo è da denuncia. Poi dice che contro di lui c'è una congiura giudaico-massonica. Questo è stupendo. Un mio collega mi disse: caro Antonio Pappalardo, contro di te si è mossa una congiura. No. No. Massonico giudaico. No, ti posso dire, Pappalardo, che voleva dire il mio collega nulla, con questa frase: congiura massonico giudaica. Ma che cosa voleva dire? Che vuol dire massonico giudaico? Nulla vuol dire, un pazzo come te. Quel collega che mi ha detto questa parola non era uno sprovveduto? No, è uno era un ufficiale che contava molto al comando generale dell'arma. E peggio mi sento, e peggio mi sento. Ma pensa che rischi, pensa che rischi abbiamo corso negli anni scorsi con ufficiali del questo genere. È vero. Questo è vero, questo è vero. Ci sono menti malvagie che stanno dietro le quinte, che stanno manovrando tutto nel silenzio cose più assoluto. Ma manovrare cosa che non ti si culano? Io vado ancora ripetendo e lo ripeto ancora una volta. Se ci fosse stato Crax Benito, non è Benito Craxi, Benito Bettino, ma evitato un processo stranamente solo nei confronti del Partito Socialista Italiano per corruzione. Oggi noi non ci troveremo. Con noi non so come sta vivendo in questo periodo, eccetera, se è recluso o no, immagino di sì, naturalmente, se non vuole violare le leggi. Daniela Martani, buonasera. Ciao, ciao Giuseppe, ciao a tutti, buonasera. Come andiamo? Ciao, non cara, sto, ciao. Non sto vivendo proprio da reclusa, perché io ho mia madre ricoverata in ospedale da quasi un mese. Questo non è buono. Ci tocca andare a. Ma non per coronavirus, però. Non per coronavirus, per un altro problema, però chiaramente è ovvio che abbiamo paura ogni volta che andiamo di attaccarle qualcosa, anche perché ci sono gli asintomatici, e quindi che ne sappiamo, dobbiamo andare lì con i guanti, con la mascherina, non possiamo toccarla, non ci possiamo avvicinare, insomma. Ma senti una cosa, ma il trasferimento da casa all'ospedale, c'è qualcuno che ti controlla? No, non sono mai stata controllata fino adesso, zero. Dimmi, no, te no, se, dimmi te se ci sono. Tu, poi Parenzo dice ci sono i controlli, ma non perché ti devono fare qualcosa. In alcune ma zone non della c'è città un cazzo, ci sono i controlli. Ci vogliono i militari. Comunque, non è che voglio, possono. Lo sai, Daniela, che militare. I cacciatori, le associazioni dei cacciatori hanno donato non so quanti soldi per insomma per questo problema del coronavirus, per la ricerca. Ma tu lo sai che il problema è proprio che lo sapete, insomma, che spero che voi vi siate informati su cosa sono i coronavirus. Perché non è il coronavirus di oggi, il Covid-19. Fa parte di una serie di virus che si chiamano coronavirus, allora... che sono tutti nati dall'apporto che noi abbiamo con gli animali selvatici. Adesso okay? Ancora quindi... questa storia. No, ancora questa storia. Ma non i, è che i cacciatori hanno dato, cioè io sto dicendo un'altra cosa, i cacciatori hanno dato un sacco di soldi, le associazioni dei vegani che cazzo hanno fatto fino adesso? Nulla. Hanno fatto qualche donazione? Gli ma animalisti hanno fatto qualche donazione? Noi siamo gli unici che evitano che si diffondano questi virus, perché chiaramente mangiando la carne, mangiando certi tipi di animali si diffondono questi virus e noi invece li evitiamo, perché io non ho mai sentito un virus, non ho mai sentito un virus che deriva da, che ne so, dai ceci, dai fagioli, dalle per verdure. Per cui mi stai io dicendo che se il mondo fosse vegano non ci sarebbe stato il coronavirus, questo è il punto. Assolutamente sì. Lo ma sto no, dicendo, ragazzi, assolutamente ma sì, questo, ma lo dico io. Lo ma diciamo, chi lo dice questo? Ma chi lo dicono tutti, lo dicono tutti. Ma scusami, ma ti sei informato sul motivo per cui ci sono questi virus? Ma sì, ma ci sono varie teorie ancora. L'aviaria, la SARS, la MERS e la mucca pazza. Beh sì, sempre degli animali, questo è vero, arrivano degli animali, questo certo. Dagli animali. animali, del rapporto arrivano che noi animali, abbiamo, sì, sbagliatissimo, certo, con gli animali. Ma quindi, Martani, distruggendo tutti gli animali si distruggono anche tutti i virus, uccidiamo tutti gli animali nel mondo. No, questa qua, no, perché comunque la natura si ribella, caro mio, la natura si riequilibria. Hai capito? Come noi, ecco, ti posso fare un esempio legato ai cacciatori, no? Allora, quando gli agricoltori si lamentano che ci sono troppi cinghiali che gli distruggono le coltivazioni, eccetera, che cosa succede? Si ordina di sparare a un certo numero di cinghiali, no? Quindi di evitare che si, popolino. Ecco, perché la natura non dovrebbe fare la stessa cosa con noi? Cioè, noi siamo troppi, no? A un certo punto, quindi le risorse stanno esaurendo, e quindi la natura, siccome è intelligente, si riequilibria, a un certo punto dice, vabbè, ragazzi, qua... Cioè, tu mi stai dicendo che questo virus alla fine potrebbe riequilibrare un po' la popolazione del pianeta? Cioè, la natura che si sta ribellando e ci sta punendo? Non è che, no, non è una punizione, è una riequilibratura, come si dice? Un riequilibrio. Ma stai dicendo una cosa folle, stai dicendo quasi sia benedetto questo coronavirus, stai dicendo, no, praticamente. Non sia benedetto, però noi dobbiamo imparare moltissimo da quello che sta succedendo adesso. Ma la natura salverà la Martani. Cosa? Salverà la Martani, salverà i vegani, cioè moriremo tutti o i vegani sono una razza? Ecco, questo è interessante, cioè i vegani resistono di più. I vegani hanno meno possibilità di prendersi il virus, ma te lo spiego il motivo, questa è grossa novità. Il sistema immunitario di un vegano è molto più elevato rispetto a chi mangia carne. Questa mi sembra una stronzata, però. Non è una stronzata, sistema... caro Parenzo, te lo spiego il motivo. Mi sembra, io ti voglio anche bene, mi sei molto simpatica, sei una persona anche molto carina. No, sei questo lo posso dire solo io. Perché io poi, tra l'altro, in questi giorni chiaramente sto studiando molto, perché sto cercando di capire molte cose rispetto a questo virus. Allora, centro studi Gottardo, centro studi Martani. Gottardo, ascoltami, perché ti potrei salvare la vita. Dimmi Martani, allora, dimmi, salvami la vita, Martani. Uno, chiaramente il corpo deve essere alcalino e assumendo cibi acidi abbassi le difese immunitarie. La carne è uno degli alimenti acidi. E vabbè, non delle guerriere. Il pH deve rimanere a 7, se no muori. Aspetta. Anche da alcalino. Poi, Martani, cosa cazzo stai dicendo? Tendenzialmente 70% acido. Guarda, ce l'ho qui davanti la cosa. Fammi sentire la seconda cosa. Fammi sentire la seconda. La seconda cosa molto interessante è che l'ha detta Ilaria Capua, la virologa, Walter Ricciardi ha lanciato un allarme nazionale. Vabbè, allora. Okay? L'anno scorso la batterio resistenza, il 70% degli antibiotici prodotti nel mondo sono utilizzati negli allevamenti intensivi, quindi quando si mangia un pezzo di carne la colpa dei morti alla fine degli allevamenti intensivi, secondo te? Allora, la Capua, parole sue, ha fatto un'intervista, ha detto che per lei queste morti sono sospette, perché non è possibile che in Italia c'è la più alta percentuale di morti di coronavirus, e lei ha detto che molte morti sono causate da sepsi ospedaliere, potrebbero essere causate da sepsi ospedaliere sono causate dalla batterio resistenza. Informatevi. Vabbè, mi stai dicendo che cosa? Che se tu sei vegano ce la puoi fare contro il coronavirus? Sì. Cioè, c'è il corpo più resistente. Hai molto più possibilità di poter resistere al coronavirus. Infatti, io quest'anno, fino adesso, facendo le cose, non mi sono presa manco un raffreddore. Invece, quanti di voi hanno avuto la febbre? Mangio delle bistecche alte così e non mi sono preso un cazzo. Toccandomi i coglioni a pelle. Aspetta un cazzo, mi tocchi i coglioni a pelle. Altro che. Ma mi sto toccando i coglioni a pelle, quello che mi rimane a pelle. Ma mi fate ridere, io posso dire una cosa, mi fate ridere tutte queste persone che hanno paura di morire, ma tutti adesso hanno paura di morire, ma quando l'Organizzazione del Mondiale della Sanità ti dice che la carne è cancerogena e te la continui a mangiare, ma che c'entra? Siccome non ti viene il tumore subito dopo che hai mangiato il pezzo di carne, Martani, che cazzo te ne frega, continuiamo a mangiare Martani, la carne, siamo vecchi come te o Cruciani, vogliamo vivere ancora qualche anno io e Parenzo? Beh, certo, allora ci mancherebbe altro, però Secondo te, se fosse così che la carne fa abbassare le difese immunitarie, che eccetera, il governo dovrebbe praticamente impedire la circolazione della carne da subito. Cioè, sicuramente una cosa che avrebbe dovuto fermare immediatamente sono i mattatoi e gli allevamenti, subito bloccati. Adesso, con l'inizio del coronavirus, subito bloccare mattatoi, allevamenti. Un'altra cosa far riflettere, ok? Qual è l'area più colpita in Italia dal coronavirus in questo momento? Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Pianura Padana. La Pianura Padana è la zona più inquinata d'Europa, la maggiore concentrazione di allevamenti intensivi sta ma sono le regioni che hanno anche avuto molti più contatti con l'estero, dai, ma non diciamo follie, su. È la parte più industrializzata del paese. È la parte più industrializzata e globalizzata del paese. Voglio dire un'altra cosa, Daniela. Prima ha detto una cosa, cioè questa è la natura che si sta ribellando. No, si sta ribellando, si sta riequilibrando. Questo è grave, però, il riequilibrio della natura. Cioè tu lo dici così, come se perché tu odi gli esseri umani, odi l'umanità, odi gli uomini. Io non odio gli esseri umani, io odio gli esseri umani che distruggono il pianeta, questo sì. Ma hai sempre detto che l'estinzione è una cosa positiva, cioè vuoi l'estinzione degli esseri umani. Dunque, secondo te, se muoiono un po' di persone, a te non te ne frega un cazzo, questo è il punto. Ma non è quello, non è che non me ne frega un cazzo, il problema è che qua stiamo utilizzando le risorse che non ci stanno più e il pianeta è al collasso totale. Che dobbiamo fare? Ma non vedi che ciò sta succedendo? A proposito, però, vorrei concludere con una cosa con Daniela, così tanto per lei non cambia nulla, perché sesso non lo faceva prima. Tu sai che in questo momento di coronavirus c'è un problema di relazioni umane. C'è uno come cazzo fa a incontrarsi? Tu che vivi a casa con tua madre, anzi no, tua madre sta in ospedale, con tua sorella, forse, non so con chi vivi a casa o da sola. Come cazzo fai? Ma per te è una domanda sbagliata, perché per te non cambia praticamente un cazzo. A me non cambia nulla. Manco ti masturbavi prima, manco ti masturbavi, per cui alla grande. No. Cioè, vi invito invece a riscoprire la vostra interiorità, la vostra parte ascetica, quindi insomma eliminare il bisogno del sesso. Cioè stai dicendo meno pippe, più cosa, cioè masturbare, non ci possiamo manco fare le pippe a casa secondo te adesso? Però non deve diventare un'ossessione, cioè se stare lì tutto il giorno con questa mano, dai, scusami, lei Martani, non ha più stare sul divano, sai che stare sul divano col pisello in mano è una delle cose più straordinarie che uno può fare nella vita. Perché fa sta roba a casa? Stare a casa sul divano, grattarsi lo scroto, dai, su, ma dimmi che non è una gioia. Scusate, perché non provate? C'ha ragione la Martani, ma che schifo, un'immagine schifosa a casa. Ma scusi Martani, ma lei non ha neanche uno di quei robottini a pila, sa? Non li usa, l'abbiamo detto 40 volte. Ma non è quello, io voglio che però noi dobbiamo essere un po' più staccati da tutti questi, come posso dire, queste cose, dal sesso, per esempio. Il sesso è una sorta di... Ma adesso che sei reclusa a casa... Non mi viene in italiano, aiutatemi, italiano, sì, addicted, vuol dire... Che vuol dire addicted? Vuol dire dipendenti, che vuol dire? Dipendenti, siamo troppo dipendenti da troppe cose. Gli uomini sono malati di sesso, dici proprio? Sì, assolutamente sì, sono malati di sesso. Cioè, a casa tu la sera, adesso in questi tempi di coronavirus, che cazzo fai? Ma non è possibile, non ti viene mai la voglia di avere un orgasmo, una roba così, sognando qualche situazione? No, niente, zero. Allora, perché io sto pensando, ad altro in questo momento, scusa. Non ti viene in mente. Ma noi siamo sull'orlo del precipizio, ma ragazzi, ma appunto, forse avete capito appunto, che è iniziata la sesta estinzione di massa, no? Dobbiamo pensare Cos'è la sesta estinzione di massa, questa qua? Niente sesso, niente carne, non berrai neanche. È logico che vuoi l'estinzione, anch'io vorrei l'estinzione, se fossi nelle tue condizioni. Aspetta. Invece riscoprire sentimenti invece del sesso, riscoprire sentimenti. Aspetta, mi ha scopato ogni tanto. Leonardo dalla provincia di Padova per concludere, vai Leonardo, dimmi che c'è. Italiani, dimmi Leonardo, dimmi. Pronto, mi sentite? Ti sentiamo, dimmi. Cruciani, buonasera, Gottardo. Vai, dimmi. Ciao a tutti, ma sono incazzato con una vipera. Perché? Che è successo? Io lavoro in un negozio, faccio il direttore in un supermercato, vedo gente 4 volte al giorno che viene a fare la spesa, tanto per girare, fare un giro. Ah, tu dici approfittano di questo per andare a fare. Lo sai che in altri posti hanno militarizzato pure questo? Cioè hanno contingentato la spesa, tu puoi uscire una sola persona. Ma certo, in Corea, da tutte le parti hanno fatto così, quando hanno affrontato la cosa seriamente. In Corea del Sud, mica in Corea del Nord. Ha ragione Leonardo, la gente, perché non ha un cazzo da fare, esce 4-5 volte le stesse persone, giusto Leonardo? Le stesse persone, 4-5 volte al giorno, prendere due cose, forse non hanno capito magari la gravità